a Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. Come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Non mi posso scusare perché non è diretta alle donne, quindi se io non ho in mente questo indirizzo, perché mi devo scusare? Non esiste, ma non esiste. Baggiato per me è stato persino un mito musicale dei miei anni, lo è ancora, mi piace tanto, siamo veramente amici, però io non posso accettare quel linguaggio. E alla fine il governatore della Sicilia ha preso la palla al balzo e li ha fatti fuori tutti e due, Zichichi e naturalmente Battiato. Primo perché non poteva accettare il linguaggio, dice Crocetta. E Zichichi, ma tu, Parenzo, hai idea perché ha fatto fuori Zichichi? Non perché parlasse di stelle, per il nucleare sicuro, ma per il nucleare. Sentiamo, sì. Crocetta, per il nucleare ha revocato l'incarico anche al professor Zichichi? Sì, sì. Come mai in questo caso? Il professor Zichichi c'è poco, sembra Ginevra. Poi, insomma, sparate sul nucleare, che sono sul MUOS, che sono in pieno contrasto con la Giunta, perché le idee si perdonano, ma l'assenza no. Beh, caro Crocetta, lo sapevi sin dall'inizio. Uno faceva i tour dicendo io non posso rinunciare al mio giro di concerti per l'Europa, anzi certo, faccio la promozione della Sicilia. Battiato. L'altro, beh, aveva detto che poteva fare l'assessore da Ginevra, l'assessore via internet. Era tutto un po' strambotto, dai, tutta una cosa un po' strambotta, sbagliato. Beh, abbiamo tempo, ne parleremo. No, aspetta un attimo, tu abbiamo ripescato un mitologico intervento di Zichichi, non solo alla Zanzara quando parlò del nucleare, che voleva riempire la Sicilia di centrali nucleari, no? Ma soprattutto si è arrabbiato anche con me, povero Zichichi, l'altra volta. Sì, no, all'inizio di febbraio, il 7 febbraio, è intervenuto in giunta, una delle poche volte in cui è intervenuto in giunta, e ha parlato per 10 minuti di Archimede. Ah, bellissimo. 10 minuti di Archimede ha parlato. Beh, vabbè, con la Sicilia. Ma dai, Archimede. Su, 10 minuti di Archimede, ma di che stiamo parlando, amico mio? Dov'è che ha elaborato il suo sì, teorema? Sì, d'accordo, ma tu puoi capire bene che con i problemi che ha la Sicilia, mi sembra un po' Benigni, parla col tassista, il problema è il traffico. Amico sì, mio, parli di Archimede per 10 minuti, nel senso che bisogna rispolverare questo nome, bisogna che i siciliani riscoprano, e non solo i siciliani, che tutto il mondo scopra che Archimede è siculo, nato a Siracusa. È piena di problemi, c'è Archimede. Come Archimede? Senti Zichichi, senti. Bisogna far capire che cosa ha fatto Archimede e bisogna farlo capire a tutti. Io ho fatto, come loro sanno, il giro del mondo per motivi scientifici e vi assicuro che nel mondo Archimede è considerato greco. Quando io dico è nato a Siracusa, dico zì, vai, lascia perdere. Come lascia perdere? È nato a Siracusa. Archimede è siciliano, non è greco. E poi spiega agli attoniti, ai pochi presenti dell'Assemblea regionale siciliana lì, che ha scoperto che le stelle non erano fisse. Come? Ti giuro. E chi gli frega gli assessori siciliani? Ma appunto, quello che dico io. E come mai le stelle sembrano ferme nel cielo? Sembrano fisse perché sono lontanissime, non perché sono ferme. Nel mondo tutto si muove. non l'aveva capito nessuno dall'alba della civiltà fino al 1929, nessuno eccetto che Archimede. Un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Perdersi in questo incantesimo e vi hanno cacciato. Calci nel sedere, Zichichi e Battiato. Ma no, ma non sono contento, perché dovrei essere contento? Ma di, insomma, fin dall'inizio era una follia. Assessori mentre uno era a Ginevra e l'altro voleva fare i concerti. Ma dai, ma di che parliamo? Andavano presi così. Poi tu mi sono. Dici, sì, consulenti, uomini immagine, punto e basta, non quello che andavano voleva. Andavano presi dai, così. Cioè, dai, non è che su. Ha preso come consulente Bernardo Provenzano. Il dire. Modello Sicilia. Il Beh. Modello. Sicilia. Poteva contemplare due assessori pirotecnici. Comunque andiamo avanti. Fiorello, Fiorello. Sono Franco. Ma come tutto questo casino? Ma guardate qui il giornale. Troie in Parlamento. Bufera su Franco. Ma come mai? Ma io non mi riferivo mica a questa legislatura e nemmeno a quelle precedenti, ragazzi. Queste sono cose antiche che già succedevano ai tempi dei babilonesi. Insomma, è una pratica citata e regolata dal codice di Hammurabi. Prostitute libiche, il senso del possesso che fu pre-alessandrino. Questo deve fare Battiato, cantare, cazzo! E che? Cantare, non parlare di politica, perché non capisce una mazza. Ma diciamola tutta, dai, su. Ah, perché ma Crimi, la, no, ma la ah, verità. Perché il tuo amico Crimi, ma figura il mio amico Crimi, sì, Morfeo Crimi, no, no, guarda, diciamo la verità. Battiato deve fare queste robe qui, quelle che stiamo ascoltando. Cioè, il resto non capisce una mazza. È chiaro, lampante. È ma così. Infatti non gli avevano affidato l'assessorato al bilancio. Aspetta un attimo, ti faccio sentire, insomma, qualche frammento della notizia del giorno. Questo incontro in streaming, questa buffonata sesquipedale, dell'incontro in streaming tra, salutato come la grande prova di trasparenza. Ma quale grande prova di trasparenza? Cioè, nessuna prova di trasparenza. Tra la delegazione del 5 Stelle e Bersani. Hanno colpito due cose. Hanno colpito due cose. A un certo punto Roberta Lombardi, che qualcuno definisce, poi vi farò sentire chi, la nostra supplente di matematica, perché sembra un po' la, no, il physique du rôle della supplente di matematica, dice: noi non siamo qui a Ballarò, che è da vent'anni che sentiamo le stesse cose, che volete fare, volete fare, volete fare e non fate mai. Dunque, io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica. E mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole e noi non incontriamo le parti sociali. Perché siamo le parti sociali. E poi Bersani, che a un certo punto ha usato un'espressione strana. Intanto Bersani usa l'espressione stranissima, così: vi faccio avvertiti. Va. Io vi rendo avvertiti, proprio, lo dico in scienza e coscienza, e da una persona che non è ambiziosa della vita, ho già avuto tutto quello di più. Ecco, vi faccio avvertiti che io con tutti i giri che ho fatto. Vi rendo avvertiti e vi faccio avvertiti. Bellissimo. Aulico. Siamo qui, 800 24 00 24. Bersani ancora si domanda, il Movimento 5 Stelle deciderà. No, ha già deciso e vi ha già chiamato puttanieri. Puttanieri, padri puttanieri. Così Grillo sul suo blog. Cosa vuoi trattare con Grillo, che dici padri puttanieri? Elencando Bersani, D'Alema, Berlusconi, Cicchito, Monti, che ci prendono allegramente per il culo ogni giorno con i loro appelli quotidiani per la governabilità. Hanno governato a turno per 20 anni, hanno curato i loro interessi, smembrato il tessuto industriale, tagliato lo Stato sociale, distrutto l'innovazione e la ricerca. Vero o falso che sia quello che dice Grillo? In parte è falso. E in parte è falso, solo in parte è falso. Ecco. Questo pensa Grillo, che sei un padre puttaniere, caro Bersani. Ma cosa vuoi trattare? E infatti sta trattando con Berlusconi, senza dirlo, Ma abbiamo con noi, grande ritorno alla Zanzara, Don Giorgio De Capitani, parroco di Rovagnate, Lecco. Buonasera, Don Giorgio, come va? Buonasera. Come bene. Andiamo? Come che andiamo? Bello. Sento un po' lontano, eh. Adesso miglioriamo. Stai zitto, in silenzio. Solo che bello. Silenzio religioso. Auguri di Pasqua. Solo in silenzio religioso. Allora, gli auguri di buona Pasqua e poi sto zitto fino alla fine della trasmissione. Bravo. Allora, Don Giorgio, io vorrei capire una cosa. Auguri di buona Pasqua a Don Giorgio. Secondo lei Bersani può mettersi a fare degli accordi con Berlusconi, Don Giorgio? Come? Può mettersi a fare degli accordi con Berlusconi, Bersani? Per me non dovrebbe farlo. No, No. No. Assolutamente. Assolutamente no. Perderebbe la faccia. La faccia davanti. Lei che ha votato, Don Giorgio? Guardi, io la prima volta, per la prima volta, e lo dico sinceramente, ho votato PD. PD alla Camera e al Senato, tutte e due? Sì, e ho votato Ambrosoli a Milano. Ambrosoli, beh, però lì è sconfitta, sconfitta Don Giorgio. È la Lega, la sua Lega, la sua amata Lega è lì che trionfa. Comunque non è stato eletto dalla Lega, siamo sinceri, chi? Maroni. Chi? Da chi è stato eletto, scusi Don Giorgio? Da chi? PDL e... Vabbè, anche dalla Lega, che vuol dire? Beh, ma la Lega ormai qui sta perdendo, dai. Ma è il suo presidente comunque, l'Alberto? Lei è di Lecco, provincia di Lecco? Ma durerà poco. Ma durerà poco. Comunque è il suo presidente, oppure lei non lo sente come suo presidente? No. No? No. Come no? No, no. Non è il suo presidente, Maroni? No, non me lo sento. Per me nessuno... Per me... Ma la Lega non è migliorata con Maroni, secondo lei? Ma Maroni... È l'unico rimasto un po' a salvare la faccia della Lega, dai, siamo sinceri. Perché il resto che cos'è? Non c'è più niente. Non c'è più niente, eh? In che senso non c'è più niente? No, non c'è più, non esiste più, ormai la Lega è sparita, dai, è rimasto Maroni. Che merda, sono... mai per amor del cielo sulla persona di Maroni non posso dire niente, è un bravo uomo, politicamente capisce niente. Ma ha visto quanta gente c'era alla cosa, alla manifestazione con Berlusconi, Don Giorgio? Ma perché io immaginavo, non è... Beh, perché? Dai. Perché? Dai, Don Giorgio. Il fascino ce l'ha ancora, soprattutto sulle donne, no? Lei dice? Sulle donne di una certa età, comunque. Beh, non è vero, frequenta anche ragazze più giovani. Hai visto la fidanzata, no? Ma, insomma... Perché? Non ne ho più sentito parlare, non lo so se esiste ancora... Beh, però una fidanzata a 50 anni di meno... Vabbè, insomma, fortunato lui... Don Giorgio, la sento un po' frenato su Berlusconi. Che è successo? No, se non mi fa le domande. No, ma è ancora il grande puttaniere, secondo lei? Quello che lei... Ma è peggio. Come peggio? In che senso peggio? Ma lei è un uomo di chiesa. Ormai, per me Berlusconi non... Niente, è nullo, è chiuso. Nullo, è chiuso? Anche se, è chiaro, il fascino ce l'ha, perché se in un mese e mezzo ha recuperato 6 o 7 punti... Appunto. Che ha una presa ancora no, su tutti i nostri bravi come, scusate, ma li ha definiti anche... Sì. Franco Battiato, no? Gli elettori di Berlusconi chi sono? Li ha definiti i poveracci ignoranti. E anche secondo lei sono così? Ma peggio. Peggio che vuol dire? Peggio di poveracci ignoranti che c'è? Ma, vabbè, sono dei coglioni, sono tutte gente che capisce niente. Ah, così, proprio secco? Ma sì, poveracci. Ma è vero che ha portato un sacco di troie in Parlamento, come, che è quello che voleva dire Battiato? Ma quando ho sentito questa espressione ho detto... Oh. Finalmente. Si è sentito allargare il cuore. Ah, gli si è allargato il cuore a lei, gli si è allargato il cuore. Da tanti anni che io dico queste cose. Ma cioè? Lui ha colpito perché la sede dove le ha dette, no? Poi insomma, assessore. Ma chi sarebbero, scusi, veramente secondo lei ha portato troia in Parlamento? Chi? Berlusconi. Ma e perché? Come le chiama? Ma chi? Mi faccia l'elenco. No, non faccio nomi. No, dai. Come non faccia nomi? Abbia il coraggio di fare i nomi. No, Parenzo, dici di fare i nomi allora. Ma io sommessamente nomi. Dico a Don De Capitani. Dimmi. Dico a Don De Capitani che o fa i nomi oppure commette una cosa gravissima, perché da uomo di chiesa dovrebbe avere il coraggio di indicarle queste persone, scusa, se no che fa? Adesso... Lancia il sasso e poi ritira la mano, non ha nulla di cristiano in questo, tutt'altro. Specifichiamo. E del resto anche Battiato non è che ha fatto un passo indietro, ha specificato nel senso. Ma che è specificato? La troia, si può anche dire uno che si vende, sì. Anche politicamente. Vabbè, ma io le ho fatto una domanda, ha portato le troie in Parlamento, sì o no? Ma ce ne sono dentro, dai! E quale? Mi faccia i nomi, Don ma Giorgio! No, perché devo fare nomi, non posso fare nomi. Non può perché rischia poi, perché poi bisogna portare le prove di questa cosa qua. Dai! Diciamo una parola un po' più, no, ecco, forte, attutita, sì. Donnette, facili. Zin zin, la zanzara. Zin zin, dispettosa. Zin zin, è arrivata. Oh, il signor Rocco Crimi, il Morfeo dei 5 Stelle, dice che il post di Grillo, quello in cui chiama padri puttanieri una serie di personaggi della politica italiana, è di sua responsabilità. No, troppo comodo. troppo comodo. Grillo è il capo politico, certo che di sua responsabilità, non l'ha detto Crimi, l'ha detto Grillo, però è il capo politico del Movimento 5 Stelle, è venuto alle consultazioni con voi e chiama padri puttanieri una serie di personaggi, Bersani, D'Alema, Berlusconi, Cicchitto, Monti, eccetera eccetera, padri che chiagnano e fottono, dice. Beh, non è che uno può dire l'ha detto Grillo, l'ha detto il capo politico. Si riferisce a un post sul blog di Beppe Grillo, del quale il fatto che sia che avvenga in luogo extraparlamentare è una responsabilità del signor Giuseppe Piero Grillo, e quindi io non ho in questa veste alcun diciamo dovere di smentire quelle che sono le sue dichiarazioni. Siamo con Don Giorgio De Capitani, parroco di Rovagnate, provincia di Lecco, regione governata dalla Lega, anche lì la Lega in maggioranza, lì vicino dalle parti di Lecco, caro Don Giorgio. No, mi dispiace per... sta perdendo, ma che sta? Vabbè, ma... Se ne faccia una ragione. Governa la Lega. Perché poi non mi diverto più, nel senso che, non ho più un avversario, non mi diverto. Ah, beh, un nemico, lei vuole sempre un nemico, Don Giorgio. Caro. Ma le alte come dire, no? Il vertice della Chiesa Meneghina, il signor Scola, non l'ha rimproverata per queste sue esternazioni? Ma tramite qualche suo scagnozzo. Sì? Sì. Scagnozzo, come gli scagnozzi del PD? No. Chi sarebbero gli scagnozzi? C'è qualche Beh, è straordinario. Don Giorgio, parli però, non sia trattenuto, Don Giorgio. Ma ha detto scagnozzo, l'uomo del vescovo di Milano. Ma qualche suo scagnozzo le ha fatto sapere di moderare i termini, che lei deve moderare i termini. Però lui non è... cioè, quando è arrivato lui non ha parlato con i preti dissidenti, li ha ignorati, non vuole assolutamente parlare. Conosco un prete che ha 94 anni. Sì. 44 anni, sì. Che è stato dissidente, che diceva messa anche davanti al 68, allora? Ha chiesto un colloquio con le nostre... Vabbè, quello non gli ha concesso. Niente. Scusi un attimo però, Don Giorgio, rischiava di diventare Papa? Io stavo male in quell'ora famosa in cui è uscita la fumata bianca, e passa un'ora... Ha avuto una tachicardia. Che non so cosa... Cosa pensavo? Beh, da una parte poteva andare a scuola, da una parte poteva andare a Roma, e dunque lontano dalla diocesi, no? Dalla sua diocesi, o no? Beh, questo era l'unico vantaggio. Era l'unico vantaggio. Ma scuola che cosa di tanto? Che cosa? È troppo legato a Formigoni, a CL, cioè uno scagnozzo di Formigoni? Ma è retroscena, come è stato mandato qui, come trampolino di lancio. Vabbè, ho capito. Tra poi essere Papa, no? Difatti, se voi avete fatto caso, dicono che il Papa precedente, no? Ha pensato di dimettersi proprio in quel periodo lì. Quindi un po' le cose coincidono, Ma tu lo sai, Parenzo, che Don De Capitani ospita una trans sul suo sito? Beh, questo gli fa semplicemente onore. Io non lo chiamerei Don, ma non importa, va benissimo. Vabbè, che c'è? Don Giorgio De Capitani, parroco di Rovagnate. Cosa c'è di male? No, si figuri con noi. Noi lo ospitiamo quasi ogni sera qui alla Zanzara. Si figuri se non lo può ospitare lei in una parrocchia. No, in una parrocchia. No, nel suo sito, certo. Trovarmi, eccetera. Ma non è che lei ogni tanto fa del sesso, Don Giorgio, no? Così, ma una domanda, per carità, innocente, così, Ma adesso perché dico si passa da Berlusconi, si passa... No, ma sarebbe interessante, noi siamo anche per la libertà... Potrebbe essere a questo punto anche una cosa anche straordinariamente rivoluzionaria, la rivaluterei nel giro di 30 secondi. Faccia un po' ricredere Parenzo, perché secondo me lei è fautore del matrimonio dei preti, giusto? Senz'altro. Dunque lei ogni tanto qualche... E anche della sessualità. Qualche licenza se la concede. Vuol dire, ma scusi, perché se uno dico è favorevole non vuol dire che uno... Io posso portare avanti i discorsi anche degli altri, ormai... Certo. Ma lei crede alla castità? Ci crede alla castità dei preti? Come? Ci crede alla castità dei preti? No, per cui anche lei nel passato qualche cosa ha fatto, preso dal desiderio. Ma cose non so, non capisco perché uno... È un conto dire, beh, io sostengo il matrimonio... Certo, c'è una grande differenza, non c'è dubbio, però... No, è un discorso completamente diverso. Però voglio sapere da lei, perché lei è una persona molto sincera. Don Giorgio, Lei è capitato? Sì. Come? Lei è capitato? Di che cosa? Di andare con una donna? No. E ride, ci fa capire che in realtà l'è capitato, su, no? Sì, ma no, perché bisogna dire queste cose? Vabbè, bisogna... Non dico Don Gallo, Don Gallo l'ha detto. Non l'ha detto. Ha detto di aver avuto delle cose prima di diventare prete, di essere stato anche molestato. Lei non è mai stato molestato da qualcuno, no? Ma... Da se stesso? Prima di diventare prete, sì. Da un prete? No. Don Giorgio, è mai stato con un uomo lei? No. No. Perché le piacciono le donne? Non lo so. Sì. Non vuole confessare la sua sessualità. Ma lei è un prete aperto, libero. Lei è un prete aperto, libero, innovatore. No, ormai siano. No, scusi, penso ci siano problemi molto più importanti. Ma no, ma è interessante questa cosa qui. Siccome io adesso punto su Berlusconi, sulle sue porcate, allora volete che. A proposito, ma lei è d'accordo con Don Farinella quando dice che non sarebbe male la morte di Berlusconi? Anche lei. Ma penso di averlo detto io, no? No, non lo so, l'ha detto, sì. E come no? E che ha detto esattamente? Come si mette in discussione questo? Certo che l'ha detto. Ma mancherebbe altro. Io penso che il Padre Eterno me lo tiri su qualche volta, no? Ah, dice... Ma un prete che augura la morte a qualcuno, contento, per amor del cielo. Però è meglio che lo tiri su, dice lei. Ma senz'altro. Libererebbe l'Italia, insomma. Libererebbe l'Italia, addirittura. E come se lo può tirare su, secondo lei? Di morte naturale o violenta? No, ma io lascio fare il Padre Eterno, sa quello che fa. Beh, sa, anche quello, anche su questo, sa, non è così semplice la cosa. No? Lei fa qualche preghierina ogni tanto? Ecco, sì, questo è interessante. Lei... Anche il problema, l'ha detto bene, giustamente, anche Monti, il problema non è Berlusconi, il problema sono gli italiani. In che senso gli italiani? Quei coglioni che votano Berlusconi? È chiaro, se Berlusconi non fosse votato, Berlusconi sarebbe già capo, no? Ecco. Sarebbe già magari in una casa di riposo. Casa di riposo. Però lei dice se c'è un aiuto da parte dello Spirito Santo, no, del Padre Eterno. Intanto lo prego. Il Padre Eterno qualche cosa ha fatto per la Chiesa, no? Ecco, ci ha dato un Papa almeno. Sì, in apparenza, sì. Ecco, almeno io dico inizialmente. Adesso potrebbe fare un regalo ulteriore. È chiaro. No, che il Padre Eterno, anche lo Spirito Santo, vada sopra il Parlamento italiano a ispirare qualcuno, no? Ispirare che? Va bene, la persona giusta, non lo so che deve prendere. Ecco, lei che ha votato PD, Grillo come lo giudica velocemente, Don Giorgio? Ma Grillo io lo stimavo all'inizio perché mi piaceva. E invece poi? Adesso mi pare che faccia ancora il buffone, sì. e non passi dalle parole ai fatti. A me anche i suoi grillini mi fanno anche un pochettino veramente pena, nel senso che sono bravi ragazzi, però... che non capiscono niente di politica, sì. Che sono rimanovrati, sì. Veramente pilotati dal guru che sarebbe Grillo. Anche stamattina vedendo in streaming anche il colloquio Bersani mi hanno fatto pena veramente, sembravano che parlassero sotto dittatura. Escono e Grillo si mette a sparare. L'impero della musica è giunto fino a noi, carico di menzogne, mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi raggi laser, se le pedane sono piene di scemi che si muovono. Patriot Wars. Questa commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. 6 persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola. E li hanno eletti. Grillo è il precedente delle zoccole. Comunque la prossima volta che io devo minacciare qualcuno uso l'espressione di Bersani. Io vi faccio avvertiti. Io vi faccio vedere, bellissimo. Io vi rendo avvertiti. Sì, ma sei moscio stasera, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Giallo tra Bersani e 5 Stelle, il leader PD chiede responsabilità, i capigruppo confermano non daremo la fiducia e non usciremo dall'aula. Dal blog arrivano gli insulti di Grillo, Bersani e gli altri sono padri puttanieri, vadano a casa, e Crimi rilancia la sfida, con un altro nome sarebbe diverso. La replica del leader PD, gli insulti non servono, bisogna dire cosa si intende fare per il paese. Domani vado da Napolitano, Eugenio Scalfari ospite del TG3. Dura replica di Monti a Terzi dopo le dimissioni del ministro, stupefatto per la sua scelta dettata per il premier da altri fini. Forse una candidatura con il PDL, dopo le offese al Parlamento Crocetta licenzia l'assessore Battiato, stessa sorte per Zichichi, parlava di raggi cosmici invece di lavorare. Consumi ancora in calo, male l'industria, lo spread sfiora i 350 punti e Moody's avverte, senza governo l'Italia rischia un altro declassamento. Niente più modello CUD spedito a casa, si può scaricare solo da internet o alle poste a pagamento, ma è una procedura difficile, l'odissea di milioni di pensionati. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Bersani però non si capisce per quale motivo, cocciutaggine oppure fino all'ultimo non si arrende e dice 5 Stelle domani deciderà, ma che deve decidere domani? Cosa bisogna decidere? Ti ha chiamato padre puttaniere. Ma lui lo sa, ma la strategia è chiara. Ma devi andare da Napolitano e rimettere il mandato. No, rimettere lui, il mandato. Lui giustamente vuole che il partito... Che cosa? Fare che cosa? Un governo con la Lega? Un governo con un governicchio di quelli che escono con la gente Guarda, che esce dall'aula? Cose che cosa? Da fare. Sono cose da fare, il mare è questo qua, cioè queste sono cose da fare, queste qua, no? Dai, sono su, da fare sentiamo 4, Bersani, 5, dai, 6 cose. Sentiamo Bersani, sì, 5-6 cose. Ora che il Movimento 5 Stelle ha chiuso definitivamente la porta, i numeri però dicono che o lei fa un accordo con il PDL o va a sbattere la testa al muro, sbaglio? Guardi che non la metta giù così per favore, sa? La mia testa sarà in ordine. La mia testa sarà in ogni caso in ordine e tranquillissima. Stiamo parlando dell'Italia. 5 Stelle deciderà. Già deciso. No, deciderà. Ma deciderà cosa? Bersani, sveglia. Vabbè, 5 Stelle ha già deciso. Ti ha chiamato padre puttaniere, dillo esplicitamente. Voglio trovare un accordo per far uscire i berlusconiani dall'aula, un accordo pure sul Quirinale, però alla luce del sole, trasparente. Beh, più trasparente di così, però ci mette la faccia, si beve lo schiaffo e una sberla e un calcio in pancia, ma che deve fare? Più di umiliarsi così per il bene del paese, dicendo... Ma quale bene del paese? Ancora credi a questa puttanata? No, perché per te... il bene del paese. Tu pensi che l'impuntatura di Bersani sia per il bene del paese? No, Bersani, beh, sicuramente non è che lo fa per il bene del paese, per sì, il culo, per il no? bene del paese, va no, bene. No, voglio dire, sicuramente uno non è che affronta per il una bene del paese, questo è incredibile, per il bene del paese. Non esiste bene, cosa devi fare? Devi Crozza, andare a votare. Sentiamo devi Crozza. Andare a votare. Allora si va a votare e basta. Crozza. Incontrato tutti, la Gabanelli, Saviano, Don Ciotti, la CGIL, la CISL, la UIL, l'UGL, le imprese, gli ambientalisti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Coldiretti, Confindustria, COP, ABI, ANIA, ANCI, ACI, ANAS, AISCAT, Società Autostrade. Gli mancano ancora l'Avis di Piacenza, i Modà e Cipe Chop. Solo che i Modà sono in tour. Chip vuole le elezioni anticipate e Chop ha già detto che voterà provvedimento per provvedimento. Porco boia, è napoletano. Cosa ci dico, ragazzi? È pronto, Giorgio? Come stai? Sono a cavallo, sono messo da Dio. Sai che sto da Dio? Sono messo, ma sai bene, benissimo. Sì, è per giovedì. Ma questo giovedì? Dopodomani? Ah no, se dopodomani non sono messo così benissimo. E come faccio a star sereno? Io ho la serenità in questo momento di uno che ha finito la benzina in galleria in salita, con la gomma a terra, la moglie che sta partorendo e dice che il figlio non è mio. Fai un po' te. Ma io giovedì vengo lo stesso, cosa dici? Ma sì, casomai guardiamo Santoro. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla... Girai un poeta. Vaime, Casaleggio sembra Wanagana, portatemi la foto di Wanagana, sta di là, vaime. Il gestore del blog, come si chiama, Casaleggio, che è allarmante, è fisicamente importante. Tu c'hai questo problema con la pettinatura di Casaleggio. No, però la non pettinatura, è che... no, di presentarsi come Patti Smith, ecco. O se vuoi come Wanagana, è preoccupante, insomma, che vai a parlare di politica con Wanagana, no, non me viene, non lo so, ecco. Per chi sta guardando via streaming, eccolo qua, Wanagana, Casaleggio, effettivamente un po' assomiglia a Wanagana. Sì, lo sto vedendo adesso nelle foto di internet, sì, è vero. 800240024, Stefano da Latina, anche vai, ma ogni tanto ci azzecca, quando il cervello marcia. Stefano. Pronto, buonasera. Buonasera, sì. Senta, volevo fare un paio di interventi. Un paio di interventi sul... bisogna vedere che già ci ha mosciato tutto. Comunque, vabbè. Sì, no, va bene. Uno sulla questione di Battiato. Ecco, non riesco a capire come mai si è venuto a creare tutto questo scandalo per delle dichiarazioni fatte che secondo me sono più che condivisibili. Cioè, nel senso, che cos'è condivisibile, scusi? Che ci sono delle troie in Parlamento? Che ci sono delle troie in Parlamento. Scelipoti e Razzi, come li vogliamo chiamare? Non guardi, so, accompagnatori, allora, però, accompagnatori ufficiali? Come li chiamiamo? Si è ripreso un po' lei. No, però scusi, Stefano, abbia pazienza. Bando alle ipocrisie. Poi c'è stata la spiegazione, eccetera, eccetera. In realtà, Battiato parla di una cosa molto semplice, l'ha anche detto ieri in un'intervista al TG3. Cioè, parla delle puttane portate da Berlusconi, delle donne. Cioè, questo è abbastanza chiaro, ma abbastanza evidente. Poi sì, parla anche delle troie politiche, quelli che si sono venduti, eccetera. Però se uno utilizza le troie in Parlamento, sì, si riferisce alle puttane o presunte tali, secondo lui, che Berlusconi avrebbe portato. Punto e basta. Dunque, faccia nomi e cognomi. Dopodiché poi se ne può anche parlare, cioè, magari ha ragione lui, Per l'amor di Dio. Però non è che uno deve fare un passo indietro, no, io non ho detto, parlavo di questo, di quell'altro, la passata legislatura, quella dei babilonesi, quella degli assiri, come dice Fiorello. Dire che per me comunque sia Scilipoti e Razzi, rispetto alla prima uscita che ha fatto in cui eliminavo solamente le troie in Parlamento, per me sono delle troie in Parlamento. Va bene, ecco, va bene, ho capito. Lorenzo da Lodi, buonasera Lorenzo. Sì, buonasera, Cruciani. No, una cosa velocissima. Le affermazioni che ho sentito prima per radio di donne e dei capitani, giusto? Sì, donne. Sì. Donne e sì, capitani, allora? Ecco, beh, mi sembrano, cioè, siamo veramente un po' stupidi di essere qualificati sempre come dei coglioni perché non si vota quello che qualcuno pensa sia giusto votare. Insomma, francamente mi sembra un po'... come l'annunziata, no? Non ho capito, scusi. Ah, perché ha detto che gli elettori del centrodestra di Berlusconi sono dei coglioni. Non è il problema di Berlusconi, è il problema di chi li vota. Cioè, francamente, tanto anche degli epiteti. Che vogliamo fare? Non lo so, è un po' come l'annunziata. Lì è ancora peggio perché la paghiamo noi. Francamente ci vorrebbe un po' più di equilibrio. Anche equilibrio, noi cosa? Paghiamo noi cosa? No, paghiamo l'ha annunziata, pagata dal pubblico. Ma cos'è questa idea che bisogna pagare solo le idee che ci sono vicine? No, cos'è questa roba? No, non bisogna pagare solo le idee. E allora di che cosa sta parlando? Elton da Piacenza, buonasera Elton. Signor Elton. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ma uno come fa a chiamarsi Elton? Vabbè, scusi. Di dov'è originario Elton? Come fa? È un bel nome, no? Ma questo è suo padre che è un mezzo criminale, l'ha chiamata, per carità, ha detto con tutto il rispetto che l'ha chiamata Elton. È un bel nome, gli piaceva, mi ha messo Elton. Beh, insomma, sì. Ma perché è un fanatico di Elton John. Immagino. Ah, sì. Non penso, non lo so, forse è venuto così. Ma perché uno a Piacenza deve chiamare il figlio Elton? Divento pazzo. Elton, ma dovrebbero proibirle queste cose, su. Siete due cavalieri bianchi che combattevate contro le forze oscure, voi due. Sì, le forze oscure, quali sarebbero le forze oscure in questo caso? Le forze dell'imbecillità, scherzo. Ascolta, volevo dire del discorso di Battiato, sì. Ha detto, secondo me, ha detto una cosa giusta, Battiato secondo me è un signore, è un uomo con le palle vere, hai capito? Siamo stufi di gente così bugiarda, imbroglioni che ci prendono in giro. E troie. Elton John è uno che canta, che suona, che parla però. Ma gli italiani devono capire, devono andare sui lavaggi dei camion, lavare bene gli occhi e pulire bene le orecchie, così si svegliano un po' perché siamo stufi. Ma che sta dicendo questo qua? No, poverino, è sotto shock. Sotto shock no, sto dicendo la verità perché c'è tanta gente che non riesce a capire niente. Sì. Almeno uno ha detto una cosa giusta. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero spero che ritorni. Oh, l'epopea Zichichi alla Regione Sicilia. L'assessore Zichichi pensava di fare il suo lavoro da Ginevra. A un certo punto dice: nessuno sa, un intervento lunghissimo di 10 minuti alla Regione Sicilia per parlare di che cosa? Di Archimede, di non so chi altro, di Galileo Galilei. Poi a un certo punto dice: nessuno sa cosa vuol dire telefonino. Se non fosse per quelle cose che noi abbiamo fatto nei nostri laboratori, ai quali io immodestamente dico contribuito, noi non potremmo avere il telefonino. Ma nessuno sa cosa vuol dire telefonino. La cultura detta moderna è pre-aristotelica. Ecco per quale motivo viviamo in piena Hiroshima culturale. L'Hiroshima culturale, tutto questo di fronte ai consiglieri regionali, alla giunta regionale siciliana, ma che cazzo gliene frega quelli dell'Hiroshima culturale e delle lezioni di Zichichi su Archimede, saranno bellissime, ma le andasse a fare all'università, a Ginevra, ad Erice, va benissimo, è stupendo, è meraviglioso, è un grande genio, ma poi bisogna avere a che fare con le cose pratiche, l'assessore, una roba, bisogna mettere le mani nella merda ogni giorno. Ma sì, certo che a me, io sono entusiasta di Zichichi. Mi dispiace perché è una figura di rottura. Ho capito, ma ognuno il suo, a ognuno il suo. Hai sentito questo suono? Senti questo suono di Battiato, no? Quello che deve fare Battiato è questo. L'era del cinghiale bianco. Infatti gliele ha suonate a tutti e poi è stato suonato, anzi trombato lui, però doveva difenderlo Crocetta. Cioè Crocetta non è che ha fatto una campagna elettorale. Fra poco lo sentiamo. Intanto Zichichi sarà ospite qui alla Zanzara. Zichichi, felice se le centrali nucleari copriranno l'intero territorio siciliano. Se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, lei sarebbe contento? Felice, no, contento. Però attenzione, centrali nucleari controllate, costruite da veri scienziati, non per esempio io. Beh, certo, centrali sicure, non insicure. Felice, no, contento. Ci felice. Mancherebbe altro, un mito assoluto, io sono d'accordo con lui, ovviamente. Cioè, riempire la Sicilia. Poi a un certo punto, Zichichi dice: io e Battiato vogliamo fare, non scaldare poltrone. Te credo, guarda com'è finita. Ci sono due modi per essere responsabili di qualcosa. Uno è quello di scaldare le poltrone. Né Battiato né io vogliamo scaldare poltrone, vogliamo fare. Quindi ci giudicherete da quello che sapremo fare. Se non sapremo fare nulla, avrete tutta la libertà di dirlo. Franco, provincia di Messina. Sì, buonasera Cruciani. Pronto? Mi Franco, sente? Vada, sì, vada. Almeno questa vicenda di Battiato è servita a qualcosa, a farci riascoltare le sue meravigliose canzoni. Visto? Eh beh, certo, è chiaro. Allora... Evidentemente anche in lei c'è qualcosa che attira Battiato. No? Ma guardi che a me piace moltissimo Battiato, come cantante, come artista, ovviamente. Come artista, come cantante. Il resto... però Battiato, sai, è uno di quegli artisti che... Mettiamo una pietra sopra. Tutto o non... Beh, lo prendi tutto, bisogna non farlo assessore, poi uno può dire la sua, però se uno fa l'assessore, poi deve fare l'assessore. Fare l'assessore in Sicilia significa mettere le mani nella merda ogni giorno, cioè sporcarsi le mani con la cacca. Ah, allora lei conosce la Sicilia, la conosce bene. Sì, ma in generale fare l'assessore... No, giusto, in particolare in Sicilia. Allora, visto che lei conosce benissimo la Sicilia, dovrebbe sapere che la lotta alla mafia qui si fa con strumenti particolari. Allora, se lei dice che Battiato è un cretino per le cose che ha detto al Parlamento europeo, io dico che lei, Cruciani, è un cretino sesquipedale per le cose che ha detto. Sì, lo sto dicendo. Per carità. Lei è un cretino con sei patenti. Sono sei per patenti, aver detto sì. le cose che ha detto su Dell'Utri. Cioè, cosa ha detto su Dell'Utri? Cosa ha detto su Dell'Utri? Lei ha solidarizzato dicendo io che... Io non ho solidarizzato per niente sulla sentenza, zero totale. No, lei non ha capito nulla. No. Attenzione, non dica le cose che vuole dire, mi faccia finire il concetto, poi Franco, ho detto, nonostante tutto... Lei ha solidarizzato con la persona Dell'Utri, sì, sentenza. Lei dicendo che le è simpatico, ha solidarizzato con la persona Dell'Utri. No, ho detto che mi sta simpatico. Magari mi sta simpatico pure un criminale. Lei deve sapere che qui noi... per scardinare questo tumore sociale che si chiama mafia, lavoriamo nelle scuole... Vabbè, non posso dire... Non posso dire che mi sta simpatico. Ma io non faccio ammenda di un cazzo. Scusi, no, Franco, poi, abbia pazienza. No, Ma sto scherzando. Mi permette di fare quelle affermazioni? Lei non può dire dico quello che voglio. Lei parla da un megafono, da un microfono. Crocetta che ha fatto il movimento megafono. Ma che dice lei? Lei non può dire scusi, dico Franco, quello che cazzo voglio. Io perché dico perché la penso come. Ma sta dicendo. Ma lei non ha capito nulla. No, parli in siciliano, così ci divertiamo. Lei deve stare. Aspetti, Franco, ho perso la comunicazione. Il tizio non deve essere simpatico. Il tizio deve essere sanzionato per quello ma che ma quello è un altro discorso, ma non posso dire che mi sta simpatico. Non mi può stare simpatico, decide lei chi mi può stare simpatico. Avanti, ho capito. Facciamo un ragazzino. Ma me la sento poco, adesso la richiamiamo, Franco. Marco da Firenze, la linea va e viene, non è colpa nostra. Marco da Firenze. Marco, sì, sono qua, buonasera, vorrei sapere, io vorrei dire che sono molto contento del risultato elettorale perché è stata una rivoluzione pacifica e democratica. Ma sono passate tre settimane, è passato quasi un mese però, Marco. Il PDL e il PD hanno i numeri della maggioranza assoluta per governare e fare qualsiasi riforma. Ho capito, ma il PD non vuole governare col PDL. Perché hanno alimentato l'odio contro Berlusconi, contro un uomo, ma dietro Berlusconi c'è il PDL, 10 milioni di cittadini italiani. Lei è a favore del governissimo, ho capito. Ho capito, Marco. Lucio da Verona, buonasera. Sì, pronto. Vada. Cruciani, stasera ho sentito Don De Capitani e la settimana scorsa Don Farinella. Pensi lei che hanno più senso critico di lei e di Parenzo? Sono più provocatori di voi due. Ma questo mi fa morire, ragazzo. Due preti, pensi lei... Non parlerei di senso critico, amico mio, comunque. Sì, sono più provocatori di voi. Ma qualsiasi giornalista in un paese normale avrebbe già detto 100 volte Berlusconi vaffanculo. E voi siete ancora lì che fate i teneri, che non dite un cazzo su questo. Ma è un maiale che dell'Utri faceva il mediatore fra la mafia e Berlusconi, e voi siete ancora lì, qualsiasi giornalista dell'8 settembre di inglese, tedesco, avrebbe ha detto Berlusconi vai fa un culo, e voi siete lì che fate i teneri, viva Don Capitani, siete peggio di un prete, ma dove siete finiti cazzo? Lo sai che io non ho capito nulla di quello ma che sta dicendo, un attimo, non ho capito niente, sono più provocatori di voi che può rimettere l'ago in vena, intanto più lei che Parenzo si rimetta l'ago nella vena, si rimetta l'ago in vena che le cade la flebo. No, ma siete voi, che giornalisti del cazzo siete in qualsiasi paese normale, civile? Sì, mandala velocemente. Berlusconi vaffanculo dopo che è stato condannato dell'Utri. E voi siete ancora lì con affetto dell'Utri, se mi è simpatico. Ma che cazzo di giornalisti siete, cazzo? Ma che cazzo... Mandate la tubulata. No, magari sentiva male. Non solo quello, ma se da lei va sedato. Due preti vi fanno le scarpe di a voi, due ma preti, pensate voi. Ma quali due scarpe? Preti. Ma dove? Quali scarpe di che? Ma sì, vi fanno le scarpe perché siete lì che fate i ruffiani con due coglioni come dell'Utri e Berlusconi. Sì. Noi ruffiani, Giovanotto. Ma che cazzo di giornalisti siete voi? Ma che cazzo di giornalisti siete? Ma perché parlate per l'inglese dai tedeschi? Ma perché hanno mandato a casa? Hanno mandato a casa i giornalisti un ministro perché un attimo solo, Lucio, un attimo solo. Centro di gravità permanente che non mi faccio mai cambiare idea. Presidente Crocetta, le piacciono le canzoni di Battiato? Oh. Ah, lei adora, sono un fan scatenato di Battiato, mi fa sognare. Ah, la fa sognare. Qual è la sua canzone preferita di Battiato? Beh, mi piacciono molto, per esempio, queste canzoni dove parla del deserto, dei treni per Tozer. Ah, i treni. Cioè, ma non ha un titolo preferito tra le canzoni di Battiato? Il titolo qual era? Questo è Cerco un centro di gravità. Cioè, No, quello della gravità no, perché ce l'ho. Perché? Perché ce l'ho la gravità. Ah, vabbè, perché lei non c'ha. È la stessa probabilmente di Battiato. Ma una canzone preferita di Battiato non ce l'ha. Presidente, no, Crocetti. Ce l'ho. Quella del coso, di Toser, che cos'è? Che è successo con Crocetta? Riprendiamo un po' sta comunicazione. Ogni volta le comunicazioni con Crocetta sono un disastro. Presidente? Governatore? Ecco. Sì. Che c'ha? Con che è collegato? Col telefonino? Col telefono fisso? Con che è collegato? Con un telefonino. Ah, telefonino, no, perché per un attimo è caduta la linea. Scusi, presidente, come la risolviamo sta cosa? Innanzitutto mi dica Zichichi, qual è stato il problema con Zichichi? Non c'era mai? Stava sempre a Ginevra? No, nessun problema. No, che come nessun problema? L'ha detto prima. L'ha detto prima, stava sempre a Zichichi, parlava delle cose, parlava dei missili supersonici. Ma chi l'ha detto prima, scusi? No, lei l'ha intervistato prima? No, lei, ho letto delle dichiarazioni, delle cose di oggi. Il problema è che voi giornalisti vi fate i servizi fra di voi, per cui ognuno riporta quello che dice l'altro. Sì. Io sono qui e sono l'interpretazione autentica delle cose che dico. Certo, no, non c'è dubbio. Allora. O lei mi intervista in modo laico, oppure... Ma come no, più laico di questo. La risposta la dia no, pure lei. No, per carità, più laico di questo. Allora, il problema con Zichichi, partiamo da Zichichi. Il problema allora, non è che c'è un problema con Zichichi. La questione è che noi... la motivazione era che Zichichi ha continuato a vivere a Ginevra, veniva qualche volta... Venti idee, però voglio dire, l'amministrare presuppone delle cose, delle scelte concrete. Il Parlamento regionale ha espresso più volte critiche su questo. Cioè, critiche su che cosa? Critiche su... rotto le balle, critiche sulla sua presenza, perché per esempio non c'era solo il problema di venire in giunta, ma anche per esempio di presentarsi nelle commissioni parlamentari, discutere, eccetera. Questo un po'. Ma lei lo capiva quando parlava di raggi cosmici, di altre cose? Era troppo. Ma sì, era molto affascinante come persona. Ho capito, però uno. Parlare male di Zichichi. Ma uno si va a sentire. No, certo, però uno si va a sentire una lezione universitaria oppure un convegno. Non è che uno deve parlare di raggi cosmici o di Archimede in giunta, secondo me. Arricchisce, no? Arricchisce una politica spesso arida. Perché l'ha mandato via allora? A dare un'immagine, un flash dell'universo, no? Ho capito, però sa, il tempo l'ha mandato via, però. Il tempo, come dire, è denaro oggi, no? Certe riflessioni vanno bene. È troppo utilitarista, però. Io molto. Una sì. Visione del mondo può io un po' piccolina, E perché l'ha mandato via allora? Per la questione dell'assenza, dice, no, la non presenza. Ma che mi dice che l'ho mandato via? Cioè, beh, l'ha licenziato. La nomina di un assessore, mandare via qualcuno, non mi pare... Scusi, TG3 io oggi... Ho fatto una scelta che mi è sembrata opportuna rispetto al fatto che Zichichi più volte aveva detto che alla fine lui guarda l'universo, per cui io devo guardare anche la Terra, i problemi difficili ne ho tanti ed è giusto anche che a un certo punto... Se ci si rende conto che c'è bisogno di una praticità delle scelte, perché guardi, l'assessorato ai beni culturali in Sicilia è competente anche in materia di soprintendenze, che in Sicilia appunto dico, è certo. Dall'assessorato ai beni culturali e ci sono ogni giorno ci sono 100.000, cioè, ma lei ha ragione, con i carrelli le cose da firmare. Lei ha ragione, ma se uno sta a Ginevra che firma? Appunto. No, infatti una volta ho mandato il capo di gabinetto addirittura a Ginevra appunto. Ma è una cosa pazzesca, una spesa pazzesca tra l'altro No, pazzesca un po', no, però un po' sì, si può evitare, certo. Ciò che è reale è razionale, diceva Hegel, no? Beh, lei è un mito, è un mito, Crocetta. Lei ma riesce a dire delle cose che non voglio dire. Riesce a tirare fuori. Lei riesce a tirare fuori Hegel anche in queste situazioni. Beh, siamo al top. Beh, perché con lo scienziato che vuole che tiri fuori. Scusi, ma sta polemica sui raggi cosmici, no? Che c'è stata. Ma veramente lui parlava continuamente di raggi cosmici? Ma non è vero, un uomo molto concreto. Ma che concreto? Ma allora perché l'ha mandato via, amico mio? Allora, perché l'ha mandato via? Non lo so. No, scusami, Crocetta, l'ha mandato via. Vabbè, l'ha licenziato, su, diciamo, via. In politica perché è così, in politica riconducete la politica ai vostri parametri. Ma no, vabbè. Lei parla di se stesso, non di me. No, certo, per carità, noi siamo molto cinici. No, ma visto che lo difende per la sua visione del mondo, io ne ho un altro. No, certo, però lui lei si è pentito. L'ammitezza dei rapporti, l'ammitezza del rispetto dei rapporti delle persone. Sì, certo, amica, qui siamo. Credo nel valore delle persone e non mi sembra di caso di mettere in ridicolo uno scienziato. No, ma nessuno lo mette in ridicolo. Scienziato, sì. Voglio dire, il problema pratico e semplice è che quello... noi avevamo rispetto ai problemi. Sì. Avevamo le sue. Io pensavo che fosse rimanesse un po' di più in Sicilia e invece stava a Ginevra, una volta ho dovuto mandare pure il capo di gabinetto. Senta, scusi una cosa, ma non si è pentito di aver fatto queste scelte? Perché alla fine, io lo dicevo sin dall'inizio, Crocetto, una volta io lo dissi. Perché mi devo pentire, scusi. Perché alla fine erano due che tanto non avrebbero. Dovrei pentire. Perché non avrebbero lavorato a tempo pieno. Perché dai. Lo sapeva già da prima. Non avrebbero lavorato a tempo pieno, si sapeva, su quello i concerti, l'altro a Ginevra, così. No, il Battiato c'è stato in assessorato, guardi. C'è stato Battiato. A mettere questioni, non solo c'è stato Battiato, ma ha continuato a proporre delle cose, così come c'è, come Zichicchi ha proposto delle questioni interessanti. Sì. Mentre con Battiato vive in Sicilia, quindi era abbastanza accessibile ed era compatibile invece anche quello, con il suo lavoro, sì. Il fatto che potesse anche vedere la sua struttura, il suo staff, certo. Fra l'altro c'è una sede anche della regione a Catania che lui. Dove regolarmente riceveva anche i cittadini e quindi ha fatto un lavoro un po' diverso rispetto a Zichicchi, devo dire che era onestamente. Poi c'è stata la questione del nucleare, c'è stata la questione del nucleare, quella è stata grave, no? Il nucleare, il MOS, non è stata grave, perché io sono una persona che crede nel pluralismo delle idee, appunto. Per cui il fatto che io non condivida la posizione nucleare di Zichicchi oppure la sua posizione sul MOS mica vuol dire che improvvisamente cioè si censura una persona. No, però io ho qua un audio in cui lei ha detto revoco Zichicchi anche perché ha parlato del nucleare in Sicilia, non ero d'accordo. No, l'audio lei c'ha, l'audio no, non ce l'ha. Lei c'ha le dichiarazioni dei suoi giornalisti che preferisce che abbiano il sopravvento sulle mie. Sulla realtà, perché la realtà, se voglio dire, se faccio un'altra citazione filosofica, la realtà non esiste. Certo, stupendo. Scusi, governatore, le voglio chiedere una cosa, ma a proposito della vicenda del MOS, molti non sanno che è un sistema di comunicazione satellitare e lei l'ha revocato la costruzione di questo sistema di comunicazione a Niscemi per le basi americane. Ma allora, scusi, diciamo la verità, lei è sempre stato uno quello contrario alle basi americane, cioè fosse per lei andrebbero via pure le basi, diciamola tutta, storicamente, lei o no? Assolutamente no. No? Noi abbiamo revocato, io non sono né un anti-americano né, no. Né ho queste posizioni, assolutamente. No, io ho revocato quell'autorizzazione per il semplice motivo che lo studio sanitario è stato fatto nello studio di ingegneria e non mi pare che siano le persone più reputate a fare. No, per carità, assolutamente. Scusi un attimo, governatore, dunque Battiato. Uno deve essere io sono contrario, io ho revocato. Sì. Fino a quanto e loro hanno la possibilità di presentare uno studio. Se ho chiesto che lo studio lo faccia, ho ricevuto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o l'Istituto Superiore di Sanità, un organo scientifico medico che può accertare sicuramente se ci sono danni o meno, e poi lo studio di valutazione. Senta, governatore, le voglio chiedere una cosa. Dunque Battiato va via per la famosa frase pronunciata al Parlamento europeo, diciamola tutta fino in fondo, sta frase era rivolta al governo precedente di Berlusconi, cioè poi lui ha spiegato eccetera, o no? Beh, e le posso dire che io non condivido, anche se fosse intanto era rivolto al Parlamento, si diceva, poi Battiato ha detto, ha specificato l'altra legislatura, ha specificato, io penso che un artista porta sempre le iperbole, le questioni, e non poteva perdonarlo. Perché non l'ha perdonato? Perché non l'ha perdonato? Perché non l'hai perdonato? Io sono amico con Battiato, ci rimango amico, spero di andarci a cena un'altra sera, però una sera di queste, vuol dire, o mica qualcuno ha... Cioè, qui si è aperto un vulnus istituzionale fortissimo con le Camere, con la Camera dei Deputati, con il Senato. Lei ritiene che io debba fare la guerra al mondo zero? Già lei mi vuole anti-americano, poi mi vuole anche il Parlamento italiano. No, si figuri. Mi pare che lei mi vuole troppe cose che io non sono. No, ma era una domanda sulla base. Beh, è un classico siciliano, uno nessuno e 100.000, Presidente. Vabbè, lei, questa voce di fondo è proprio è un classico siciliano, di uno che fa finta che non c'è, e invece che c'è, anche ma è Parenzo. Una cosa classica. Da tragedia greca invece, macchina. Guardi che c'è poco da sfottere, eh. No, ma è Parenzo che... No, ma sono Parenzo, no, anzi. Questo stile vostro canzonatorio, cioè... Ma no, ma che canzonatorio, ma scusi. No, anzi, no, io... per carità. Ma no, scusi, uno che dice che ci sono le troie in Parlamento, scusi, uno che dice che ci sono le troie in Parlamento, Presidente, uno dice ci sono le troie in Parlamento, l'altro dice, parla per 10 minuti, ho sentito di Archimede al Consiglio regionale della Sicilia, uno un po' si mette a ridere, così ci consenta di ridere un attimino, scusi. Beh, Presidente, abbia pazienza, però va bene tutto. Ma voi ridete, fatelo tranquillamente, io un po' rispetto per le persone, non mi metto a ridere su. No, beh, infatti mica vogliamo che lei rida. Ma poi piace questo stile con cui caratterizzate la vostra trasmissione. No, ma infatti mica la stiamo prendendo... mica siamo... voi volgete le persone che hanno poco da ridere. Ma io non la no, sto... No, ma non è con lei. Un po' di problemi anche più... Ma certo, ma io non la voglio... Non la voglio... alle vostre questioni, perché se quando esagerate, esagerate. No, ma noi veramente non stiamo affatto prendendo in giro, non stiamo prendendo in giro nessuno, la rassicuro. Non mi piacciono queste voci fuori campo, io lo dico con estrema sincerità. Ma è la mia... Ma sono Parenzo! Ma non è fuori campo, conduciamo in due la trasmissione. Sono Parenzo, ci siamo visti per 2 siamesi che conducete la trasmissione. ma è venuto qua altre volte, su, Presidente, lo so. È l'alter ego. L'alter ego, esatto. Il suo ego più cattivo. Non è già abbastanza cattivo, ci mette un altro. Cattivo, scelgo uno buono almeno, no? No, ma anzi, io sono un sostenitore estremo di tutto. Ci siamo visti anche alla 7, dalla signora Merlino all'area che tira. Sono un sostenitore... un ultras della giunta Crocetta, l'ho difesa sempre, l'unica cosa che dico è che secondo me il grandissimo Battiato poteva essere perdonato perché in fondo ha detto quello che molti pensano. Ma chi è che non l'ha perdonato? Scusi, perché io l'ho condannato. No, ma... io ho fatto un assestamento di giunta, intanto uno scontro istituzionale, stop. D'accordo, però... rispetto, dal momento che dovevo cambiare la giunta, ho ritenuto che è necessario aprire tutta la questione e risolvere questi problemi. Però Presidente, in fondo ha detto, si può dire che ha detto una verità, c'è molta gente che ci sta chiamando che dice è vero che in Parlamento sono state sono state portate anche delle troie, diciamolo, utilizziamo la parola che io ha detto. Non lo penso affatto. Lei non lo pensa, scusi, infatti penso che sia un linguaggio che possono fare l'istituzione, lei naturalmente se lo può permettere fa spettacolo, io invece mi occupo di cose un pochettino più non serie, perché anche lo spettacolo è serio, per carità. No, ma anzi, a volte è più serio della politica. Io veramente non l'ho detto, l'ha detto Battiato, eh. Io non l'ho detto questa cosa. Vabbè, allora non me lo faccia dire pure a me. No, mica voglio che lo dica lei. Sta tentando di fare no, in modo, devo dire, anche persino irresponsabile. No, ma assolutamente. Presidente, ma io non le voglio mettere in bocca nulla. Ma si figuri se io le voglio mettere in bocca delle parole che lei non pensa. Nella maniera più assoluta. Ma mai più artisti? Mai più scienziati? Mai più personaggi fuori dalla politica? Mai più artisti e mai più scienziati. No, voglio dire, come profilo di assessori, dico, no? Meglio dei politici. Non ho fatto mai. No, guardi, Battiato è una persona splendida, di una grande umanità, di grande artista, capito, però... uno che fa sognare, ha delle belle idee, però voglio dire, se si rende una cosa inopportuna, è inopportuna. Terzi si è dimesso per certo, una questione, non certo. Credo. Quando si aprono delle questioni istituzionali, mi pare guarda che velocemente si risolva. Secondo me lei ha fatto benissimo, non lo sto mettendo in dubbio, assolutamente, anzi mi aspettavo un passo indietro da parte di Battiato, devo dire la verità, forse faceva meglio di mettere... Battiato ha dato subito la disponibilità, devo dire, con molta sincerità. Secondo me non ne poteva più già. Non ne vedeva l'ora. Non vedeva l'ora, secondo vedeva me. L'ora. Ma sì, è stato liberato perché lui non voleva manco accettare. Appunto. Invece, con molta franchezza questo. Di Chichi invece lo vedevo più insensibile a questa storia. Cioè, al fatto che lui non ci fosse non lo riteneva un problema. Io a un certo punto mi sono accorto invece che un problema era, perché lui continuava a dire che nell'epoca dei media, ha ragione, uno può stare anche a Ginevra e parlarsi con la posta elettronica, solo che le carte in Italia purtroppo non si firmano con la carta posta elettronica, ma si firmano con montagne di carte. Io stavo al Parlamento europeo, non vedevo una carta, qui sono smerso dalle carte. Che però su questa ragione, di fondo ha ragione Zichichi su questo. Fondo ha ragione Zichichi, però il sistema italiano purtroppo non prevede questo. Io sono costretto a vedere tanta carta che dico, ma è. D'altro mi ero disabituato nei 3 anni che stavo in Parlamento, io presentavo le mie proposte, gli emendamenti ai progetti di direttive, facevo le mie relazioni tutte online, invece qui non esiste. Comunque lui è un po' si arrabbiato. La carta al Presidente dell'Assemblea, certo, non gli mando la carta fisica, invece a Bruxelles una mail basta. Purtroppo noi viviamo in questo modo. Io allora che faccio? Ogni giorno mando il suo capo di gabinetto a Ginevra. Mi pare che le motivazioni siano abbastanza differenti. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti. Bella questa, governatore, le piace? Presidente, perché non esiste la figura del governatore, sì, e poi una parola proprio che fa orrore. Presidente, le piace questa? Non è male. Bella. No, ma lui è un grande cantante, secondo me si doveva limitare a fare il cantante, lo dissi in tempi non sospetti. Non sospetti. Scusi, con chi? Guardi che faceva bene l'assessore. Sì, ma è vero che non c'era una lira? A un certo punto lui disse che non c'è più un euro. Era vero quello che aveva detto oppure era un po' esagerato all'epoca? No, si c'era da fatto perché ha scoperto che... Che avevano rubato tutto, lui ha detto. Il precedente governo aveva impegnato più risorse di quelle che aveva a disposizione, che ha fatto il ruolo di bilancio. Presidente, scusi, è stato anche grande nella denuncia. Sì, no, ma era una domanda. Scusi, Presidente, ma con chi li sostituiamo? Mi dicono che lei potrebbe nominare Antonio Presti, così diceva qualche rumors. Pronto? Uno dei più grandi artisti italiani, un grande mecenate, uno che ha speso tutto il proprio patrimonio. Sì. È una storia incredibile quella di Presti, perché Presti, il padre aveva delle cave, un cementificio, a un certo punto ha ereditato questo un immenso patrimonio. Sì. E ha ritenuto che la natura di quel patrimonio fosse non fosse corretta, quando cominciò a ricevere estorsioni, capì che il padre forse le aveva pagate, lui denunciò, misero una bomba nell'albergo che aveva, e lui da quel momento ha cominciato a dedicare tutto il patrimonio, ha venduto le cave, ha venduto il cementificio e ha speso tutto quel patrimonio per fare il più grande museo di arte contemporanea all'aperto che c'è nel mondo. Ma lei lo potrebbe nominare assessore? Perché non lo potrei nominare? No, ma è una domanda, ci sta pensando, è già pronta la... E lei pensa che io a un certo punto, rispetto a un'ascesa che ho fatto improvvisamente, causata... ho nominato già qualcuno? Ah, potrebbe, perché? Perché? Per me è stata una scelta molto sofferente, ma sicuramente Presti è un grande nome. È un candidato. È uno che ha legato l'arte, ha portato l'arte nei quartieri popolari di Librino, coinvolgendo la scuola, il motto delle scuole, delle parrocchie, facendo volontariato. Ma quando la prenderà la decisione? Non pretendo mai un sussidio di nessun tipo. Anche Battiato faceva gratis l'assessore, per intenderci. Certo, quando la prenderà la decisione? Sia su Zighi che su Battiato? Aspetterò qualche giorno di riflessione, anche se vuole, anche per recarmi le ferite, no? Perché siamo degli esseri umani, mica siamo delle macchinette. No, certo. Però mai più assessori in contumacia, diciamo la verità. Uso questa espressione forte. Questo si può dire. E lei però dopo dirà che io ho detto che loro erano in contumacia. No, è vero che erano in contumacia. No, io non dico niente. Perché lei... Non facciamo questa battaglia dialettica. Ormai la vostra tecnica l'ho sperimentata anche in altre vicende. Per cui... No, guardi, con noi non ha avuto nessun tipo... Ormai siete, provati. Ma guardi, con noi lei non ha mai avuto nessun tipo di problema da questo punto di vista. No, qualcuno ce l'ha avuto. Qualcuno può darsi che ce l'ha avuto, ma abbiamo sempre avuto ragione noi, come nel caso di Grasso. Come nel caso avete avuto sempre torto. No, sempre ragione, guardi. Avete avuto sempre torto. Le posso assicurare che abbiamo avuto sempre... La ragione aveva torto, come diceva il filosofo. Le posso assicurare che abbiamo sempre avuto ragione, Presidente Crocetta. No, nei miei confronti no. Nei suoi confronti no, non c'è stato nessun tipo di diatriba tra di noi, o comunque non me la ricordo, e siccome non me la ricordo significa che non era importante. E neppure io me la ricordo. Appunto, si figuri. Cioè non è quello il punto, no. Fra poco ci sarà, dunque io voglio capire una cosa, se ci può dare qualche anticipazione, per carità, non è che le vogliamo estorcere qualche nome, questo signor Presti che io non conosco. Sinceramente? No, ancora non ha deciso. Intanto è il maestro Presti. Maestro Presti, scusi. Ma che il signor Presti sembra che è una cosa. Però no? si può dire che mai non farò più assessori in contumacia, cioè che non vengono, che non sono fissi, che non stanno lì alzati. Non glielo dirò manco sotto tortura. Nemmeno sotto tortura. Perché vabbè. Non mi pento delle scelte, sono stati due vabbè. Dei nomi, vabbè. Delle però persone. Volevo grandi cambiare hanno dato, perché poi parliamoci chiaro, cioè sì. Ognuno dà, non è detto che voglio dire che rispetto, guardi, se l'assessorato per esempio alla cultura fosse stato solo alla cultura, sì. Probabilmente anche la scelta di Zichi, che era una scelta compatibile, purtroppo si occupa di tante cose. Lo so, ma il problema è che burocratiche, eccetera, che non possono essere gestite, però voglio dire senza essere presenti, per cui è un altro problema, non è il fatto che è il profilo dell'assessorato, non il profilo dell'assessore che entra davanti. Ma scusi Crocetta, volevo chiedere solo questa cosa qui al volo, ma per cambiare argomento, se lei lei con i grillini riesce a governare, no, il famoso laboratorio Sicilia, sì. Se lei fosse al posto di Bersani, ecco, Bersani oggi è andato tutto a carte 48 a catafascio, ha visto che cosa ha detto Grillo, no, i padri puttanieri, insomma cose pesanti, no, ormai là è chiuso. Che consiglio dà Bersani? Anche Bersani è puttaniere. E così ha detto Grillo, mica l'ho detto io. Vabbè, ma il fatto che lo dice Grillo, che vuol dire? Ha detto padri puttanieri anche a Bersani. E io che devo dire? Presidente Crocetta, questo è. Questo dicono i padri puttanieri. Vada a vedere beppegrillo.it. Così dice, li chiama padri puttanieri. Uno ancora deve fare trattative con chi ti chiama padre puttaniere. Per me è una follia. O no? Guardi, non deve fare nessuna trattativa a Bersani, come non ho fatto alcuna trattativa io. Uno presenta dei punti, sì. Si presenta con dei punti al Parlamento e propone vedere, sì. Anche, possibilmente, anche una squadra di governo. Dopodiché non è che si dice no al padre puttaniere, si dice no a una soluzione per l'Italia. E qui il problema è se Grillo nel presentarsi alle elezioni, sì. Vuole continuare a fare l'indignato oppure vuole dare un senso a quel voto che gli hanno dato i cittadini. Com'era la canzone dare un senso? L'indignato agli spagnoli non si presentano alle elezioni, vanno in piazza, vanno a Paseo de Gracias a Barcellona. Io ci sono stato qualche volta, pure ho partecipato, sì. A qualche loro manifestazione divertente, sì. Mi piacciono, però delle loro radicalità, però quando si va in Parlamento si va per dare delle risposte ai cittadini, non so, per dire puttanieri agli altri, ecco. Lo so, infatti è rimasto indignato, secondo me, è rimasto un po' indignato. No, io non mi indigno di nulla. Lui. Vabbè, ma uno che si indigna non dice manco puttaniere agli altri. Perché non è che ognuno di noi ha la ricetta magica della verità o delle cose. Grillo dà l'impressione. Poi, d'altra parte, il problema è capire che due terzi del Parlamento è rappresentato ancora da partiti e che soltanto un terzo del Parlamento espressione di un movimento. Sì. Allora, pensare che di avere avuto la maggioranza solo perché si ha il 25%, questo mi pare un grave errore politico e se mi consente è anche un fatto persino antidemocratico arrogarsi questo diritto. Questo. Scusi, un'ultima cosa, lei nella diatriba, io chiedo da siciliano ovviamente, nella diatriba che c'è stata nei giorni scorsi tra Grasso e Travaglio, no? Questa grande disfida a proposito di mafia, antimafia, Grasso eccetera eccetera, si è intromesso pure Ciancimino, intervistato qui da noi alla Zanzara, se non le dispiace. Ecco, anche Ciancimino accusa Grasso. Sì, accusa Grasso, si dice che è un paraculo. Questa sì che mi piace. È un paraculo. Ciancimino è una grande espressione dell'antimafia siciliana. Beh, per qualche magistrato lo è stato per un periodo. Mi pare che. Ecco, appunto. Se noi dobbiamo confondere coloro che sono stati dentro un sistema e che si ravvedono. Sì, sì. E confonderli invece con coloro che sono stati invece a proteggere le leggi e i cittadini mi pare un po' una confusione. Per cui mi dica qualcosa tra Grasso e Travaglio. Paradossale. Lei con chi sta tra Grasso e Travaglio? Guarda, io dico che Grasso per me è una persona estremamente coerente. Travaglio c'ha questo pallino da anni, è una persona che stimo. Però c'ha il pallino di Grasso. Però, secondo me sbaglia. Sbaglia Travaglio quando cerca da anni di contrapporre Caselli e Grasso. Sono due grandi espressioni dell'antimafia italiana. Lì si rispettasse. E perché lo fa? Perché lo fa secondo lei? Ma lui c'ha ha un'ossessione su Grasso da anni. È ossessionato. Cioè, voglio dire, sembra una specie. Lui è così, ha deciso. Sarà innamorato. Sarà innamorato. Segretamente. Sarà. Sai, quando non uno, lo so, quando uno ha un'ossessione. Questo non lo so, sinceramente, perché non è che uno può psicanalizzare una persona da quello che dice sul giornale. Lei è innamorato ora? Innamorato? Beh, non lo so, non è un argomento, lo sa lei che io sono su questo terreno molto arido. È arido? Come arido, Presidente? Non bisogna mai essere aridi. Lo so, però. Voi mi avete fatto fare pure i voti di castità. No, quello l'ha fatto, ormai, quello l'ha fatto fare. Visto che me l'avete fatto fare voi e Klaus Davi. Klaus Davi, sì. Io li accetto, che volete che vi dica, sono rassegnato. È rassegnato alla castità ormai, Ho rassegnato ai vostri voti. Ai nostri voti, ma noi siamo... Sono rassegnato al fatto che voi mi avete fatto fare il voto di castità. Lo so, però, Presidente... No, però poi dopo... Sa. Ma non è colpa nostra, io la castità non l'auguro a nessuno, mai, mai, mai. Io neppure, guarda. Mai. Allora lei mente, allora mente su questo. No, ha mentito lei. No, ancora, si rivolga a Klaus Davi. Lei si confonde. Esatto. Lei si confonde. Mi rivolgo anche a voi, che siccome fate gli articoli sugli articoli che fanno gli altri. Ma veramente noi non li facciamo. Gli articoli non li facciamo. La verità ci azzeccate poco, Guardi. Ma quale articolo Presidente, facciamo? Secondo me si sta sbagliando, perché noi non c'entriamo niente, guardi, non c'entriamo nulla. La questione della castità è stata tirata fuori da Klaus Davi, che peraltro è stato anche suo consulente, per cui non lasciamo no, per... Guardi, anche questo è molto informato, è mal informato. Io ho avuto un rapporto di collaborazione, appunto, c'è non stato. Come mio consulente, vabbè, quello che è, ma come esperto per la città di Gela per un anno, sì, appunto, nel 2004, e che ho detto io? E lì si è chiuso per un problema molto grave, siccome la città di Gela ha una serie di cose belle, sì. Aveva un'immagine pessima. Mi è sembrato importante dare Ma io che ho detto, non è che consulente ad un esperto, un incarico ad un esperto che ma infatti nulla di male, anzi benissimo, l'immagine della città, dopodiché è diventato a vita il mio consulente. No, a vita è stato, io ho detto, è stato un suo consulente. È stato, però le ricordo che stiamo parlando dell'era Pavione. Ho capito, ma mica è un criminale. Nel 2004 mi pare che sono passati 10 anni. Presidente, non ha fatto un accordo di collaborazione con Bernardo Provenzano? Non mi sono sposato con Klaus Davi. Abbiamo fatto un accordo per un anno. Però non è brutto, signor Davi. Diciamo che non è il mio tipo. Poteva essere un'idea. Chi è il suo tipo? Scusi, il suo tipo ideale, chi è? Che glielo dica a lei. E perché no? Anche perché lei è un maldicente, per cui finalmente te l'ha detta. Sa cosa vuol dire l'espressione à voile e à vapeur in francese? À voile et à vapeur. Vabbè, è un'espressione francese che significa... À vapeur significa vapore. À vela. Non capire, perché mi sembra più arabo che francese. A vela e a vapore. Significa... Ah, voile come senso di vela. Anche come senso di velo. È tutto, guardi. Significa una persona che sta in due... La voile. A voile e a vapeur. La voile, la voile. Comunque, io sogno crocetta, Presidente, io sogno il momento in cui lei mi dice: mi sono di nuovo fidanzato. Basta castità, basta. Perché la presidenza. Guardi, a lei non lo conosco, però sembra abbastanza intrigante per interessarmi. Sì? Sì, almeno mentalmente. Beh, sì, perché sono un po' stronzo. Dunque, sono tipi che piacciono. Non finisce di mettere in imbarazzo gli altri, mettere in imbarazzo lei. Sono tipi che piacciono, un po' stronzi così. Comunque, vabbè. Vabbè, certo, molto. Molto. Più piacciono. Che destino. Lo so, però io, guarda, sogno il momento. Perché, guardi, la presidenza è compatibile con l'innamoramento. Se lei avesse un pochettino più rispetto delle persone, forse se stronzate non le direbbe. Ma io dico un sacco di stronzate. Io sono pagato per questo, è diversa la cosa. Però non aggredisca le persone. Ma chi sta credendo? No, Presidente. La sacralità inviolabile delle persone. Ma noi stiamo amichevolmente parlando. Stiamo scherzando. Piacevolmente parlando e scherzando. No, come dire, non scherzi con il fuoco. I fatti, per dirla con un eufemismo, i fatti miei. Ecco. No, per carità, mai, mai, mai, mai. Anzi, l'abbraccio fortissimo e la saluto. Buona serata. Arrivederci. Mi stia bene. Grazie. Mi stia bene, Presidente. Tu. Sotto te svento la bandiera bianca, guardi, a lei non lo conosco, però sembra abbastanza intrigante per interessarmi, almeno mentalmente. Più stronzi sono, più piacciono. Più stronzi sono, più piacciono. Hai capito, Parenzo? Come no. Grandi verità, grandi verità pronunciate dal presidente della Regione Sicilia, che non mi sembrava francamente abbattuto per questi due assessori perduti. Adesso, detto con tutto il rispetto, sì, non si strappava le vesti. No, diciamo, no, diciamola tutta, non si strappava le vesti assolutamente. Lui dice sì, mi devo leccare le ferite, poi bisogna dire delle cose istituzionali, i grandi nomi, no, il rispetto istituzionale, tutto quanto. Però primo a quello gli ha dovuto mandare il capo del gabinetto a firmare i documenti a Ginevra, ma ti rendi conto o no? Che se l'avesse fatto un altro governatore, l'avrebbero in un'altra parte d'Italia, no? Un governatore magari, ma l'avrebbero messo piazza, al muro così con i chiodi, sai, i chiodi quelli di Gesù Cristo, così ti beh, messo Pasqua, diciamo, è una metafora ardita. Sì, forse è una metafora un po' complicata. Sì. Non me ne sono reso conto del mio cinismo totale. Sotto Pasqua, non me ne sono reso conto. Comunque sì. Poi c'è il Resurrectio, per cui tutto a posto. No, ma però... No, ma per dire, no. Lei ha la licenza poetica. Ma che licenza poetica? Però dai. Volevo dire questo, ma il fatto del che forse volevo parlare più tardi, non lo so, sì. Ma il gran maestro della massoneria. Ora, che dice cose? Sì, però alza un po' la voce, che stasera siamo moscio. Il gran maestro, no, ma sono al telefono fisso del tuo ufficio. Il gran maestro della massoneria, che dice anch'io ho votato 5 Stelle, no? Il signor gran maestro, ci mancava solo il gran maestro della massoneria. Vabbè, ad alimentare questo Cirque du Soleil, ma io rispetto per il Cirque du Soleil, non il Cirque du Grillo, lo chiameremo d'ora in poi. Il Cirque ma scusa, du ma Grillo. A questo punto mi sembra che una telefonatina a Villa Wanda andrebbe fatta. Infatti questo ti volevo suggerire, esattamente questo. Villa Wanda, buonasera? Chiama. Vabbè, adesso chiamo. Antonio dalla provincia di Siracusa. No, ma gli parlo io. Ormai. Antonio dalla provincia di... Sì, dica. Buonasera. Dica, il numero, dica no? Antonio, grande Sicilia stasera. Chiama. Sì, grazie. Sì. No, mi sto divertendo tantissimo perché c'ho davanti il giornale di stamattina alla Sicilia. Sì. Battiato 2 punti, Troia in Parlamento, il bufero sull'artista assessore. Sì. Quello che mi stupisce di più è che la Presidente della Camera, pur venendo ideologicamente vicino a Battiato, sono i primi a scaricarlo. Ma penso che non è solo un fatto della parola che ha detto Battiato, Troia in Parlamento, ma Troia in Parlamento gli hanno detto i partiti a Crocetta e alla sinistra. Gli hanno detto a partire dall'UDC, io leggevo 10-15 giorni fa, subito dopo le elezioni pure, che il segretario dell'UDC diceva, amico mio bello, la festa, gli artisti, gli scienziati, d'accordo, però qui dobbiamo fare progetti, dobbiamo fare politica. Ma bene che sta dicendo che, no, che questi qua sostanzialmente non facevano un cazzo. No, che non facevano un cazzo. Battiato è un artista che appunto io ho sempre canticchiato le canzoni che hai mandato 10 minuti fa. Sì. Tichiti è un grande scienziato di livello internazionale e fa bene a parlare di Siracusa e di Archimede, perché Siracusa ha delle bellissime cose che sono sconosciute al mondo, però sono i maestri del mondo. No, che sì. Io faccio per campanilismo, ma è la verità. Del resto io parlo mezzo romano. Sì. È tutta la verità. Però merito a chi ha merito. Vabbè, allora... E allora dico che è tutta la storia politica, non illudiamoci che è perché ha detto Troia in Parlamento, è perché ora Crocetta nelle ultime regionali, cioè alle politiche, al Senato in Sicilia, Crocetta non ha fatto le sue che ha avuto, perché è andato male, è andato male, parlare, sì. Esatto, non ha superato a chi no, ha superato il 4%. Ma io sono d'accordo con lei, cioè dico, ti abbraccio, te apparenzo agli amici della Zanzara, sì. Ciao Antonio. Grazie. Ciao Margherita, provincia di Roma. Ha ragione l'ascoltatore, dietro le parole, così l'ho mandato via per la frase sulle troie, c'era un dissidio già da tempo con i due assessori, un dissidio, yeah. Una differenza di opinioni, un modo di lavorare diverso. D'altra parte, io ripeto, per fare gli assessori bisogna mettere le mani nella merda. Quelli stavano a fare i concerti, uno a Parigi, a Londra, a fare avevano i tour. Avevano un altro ruolo, non ma erano, sì, dai. Non è così. Margherita, provincia di Roma. Margherita. Sì, pronto, buonasera. Vada. Senta, io ho chiamato perché ho sentito già l'altra sera che ha telefonato un prete, adesso non mi ricordo il suo nome, poi stasera un altro prete. Sì. E possibile che dei preti vogliono la morte di una persona? Lo so, ma com'è possibile? Brava. Ma questi lo sentono il Papa? Questi dovrebbero andare nelle case e parlare del bene. Lei ha ragione. Sono cattolici e invece mettono odio su odio. Ma perché? Già l'Italia c'ha tanti problemi, c'è tanta gente che è disperata. Questi invece di mettere della pace, di mettere delle cose di dire delle cose buone, invece mettono ancora fuoco per far cosa? Io non, veramente sono sono meravigliata di questa cosa, dei preti che vanno vogliono del male a una persona. Questa persona può aver fatto tutto quello che non so, del male in questo mondo, però non si può voler la morte di una persona essendo cattolico, cioè non si può. Vabbè, ho capito, Margherita. Sono dei preti, ci sarebbe tante cose da fare, ci sono delle persone che hanno bisogno di parlare, che hanno bisogno di queste persone, invece fanno politica. Perché fanno politica? Non dovrebbero fare politica questi, dovrebbero andare dalle famiglie a cercare di parlare. Lei ha ragione, Margherita. Ma invece vengono a fare politica. Lei ha ragione. Il prete deve andare a parlare con le persone, come dice il Papa stasera. Ha detto andate in giro e parlate, che c'è tante persone che hanno bisogno non solo di aiuto economico ma di una parola bella. E siamo in collegamento con una pellegrina del voto, una persona che sta facendo il giro del Friuli Venezia Giulia insieme ad altri, ovviamente, Deborah Serracchiani, Partito Democratico. Non rida, che sennò la signora... mancava, però devo dire che è veramente apprezzabile. Se uno fa la candidata e poi alla fine fa la pellegrina, diciamo la verità, fa un po' la pellegrina, cioè gira così come una trottola, come giusto che sia, uno esatto. si deve prendere i voti. Devo dire, la Serracchiani si è presi i voti al Parlamento Europeo e poi adesso si prende i voti in Friuli Venezia Giulia. Ma quando la mettono in un listino bloccato ogni tanto? Un listino nella vita, un listino bloccato, bisogna farselo. Ha ragione. Un passaggio ci vuole. Non ho capito molto nella vita, obiettivamente, guardo a quello che sto facendo. Un passaggio di listino bloccato va fatto nella vita. Mi pare che un listino bloccato non si neghi a nessuno, un po' come un ordine del giorno. Esatto, no? Devo dire, un passaggio sicuro in cui uno si rilassa un attimo. Sono lì, sicuro, esatto. Bello, che non ho bisogno di farmi il mazzo, i voti non li devo prendere, non devo parlare tanto sono lì blindato. Chissà. Vabbè. Senta, onorevole Serracchiani, voglio capire una cosa. Qui mi sembra che le cose siano messe in questo modo. Dopo la giornata di oggi... Perché lei ha capito come sono messe? No, non sono messe, no, ci sto provando. Cioè, a parte che ho saputo che qualche senatore, qualche responsabile d'aula nel Partito Democratico sta facendo i conti con le autonomie, col pallottoliere lì. Ma si può far nascere un governo in questo modo? Non mi dica che lei è d'accordo con far nascere un governo col pallottoliere. No, in genere sono assolutamente contraria. L'unica perplessità che posso avere è sulla opportunità che comunque si sblocchi la situazione, anche soltanto per andare da Napolitano e chiedergli che si fa. Cioè? Perché voglio dire, se il pallottoliere non funziona, se i numeri non ci sono, il passaggio Bersani lo farà e credo che sarà anche in qualche modo un passaggio obbligato, poi dipenderà molto dal Presidente. Passaggio della di Repubblica. Che tipo? Cioè in Parlamento, dice lei? Un passaggio in Parlamento, in questo momento... Mica è detto, mica è detto. No, ha ragione, cioè se io guardo all'incarico ricevuto dal Presidente Napolitano direi di no, perché era una verifica alla possibilità di avere i numeri in Parlamento. Però visto che qualcuno sta già col pallottoliere, può darsi che provi ad andare con i numeri in Parlamento. Cioè provi a dire a Napolitano fammi fare un tentativo in A. Che i numeri ci sono. Che i numeri ci sono. Sì, però anche se ci fossero i numeri, scusi, onorevole Serracchiani, però diciamo la verità, anche ci fossero i numeri, perché poi non capisco, solo con le autonomie e rimasuglio così non ci sarebbero comunque, si ricorda che qualcuno diceva governo di minoranza. Io non credo uscire dall'aula, che la destra esca dall'aula. Esatto, io non credo francamente che abbiamo neppure quelle condizioni, per cui provo a dirle quello che penso accada, ma consapevole del fatto che sono ai margini dell'impero, che quindi non so esattamente quello la che pellegrina del Friuli. La pellegrina del Friuli? La pellegrina del Friuli, da pellegrina del Friuli le dico che probabilmente Andrà, mi pare di aver capito che adesso va venerdì Bersani dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica prenderà atto della situazione e, pallottoliere oppure no, probabilmente dovrà decidere se dare incarico a una persona terza. Immagino questo. Ah, ok, cioè secondo lei il tentativo è fallito? Il tentativo è fallito. Allora, fallito, ripeto quello che ho detto prima, il tentativo ci sarà, però come dice lei, i numeri sono numeri incerti, chissà se ci faranno fare il tentativo quello incerto. Quello in Parlamento, sì, ma secondo lei Napolitano, mi sa che Napolitano non è tanto di quest'idea. Cioè... Diciamo però che con quello che sta succedendo, se penso alle stesse dimissioni del ministro Terzi, credo che Napolitano ci abbia talmente tanti pensieri in questo momento che può darsi pure che si lasci andare magari a un pensiero che non aveva fino a qualche ora fa, insomma. Ecco. Però mi dica la verità, lei ha sempre detto mai col PDL eccetera eccetera, però bisogna qui constatare una cosa, cioè che 5 Stelle sbattono le porte in faccia oggi nello streaming. Oggi Grillo ha parlato di grande di padri puttanieri, rivolgendosi anche a Bersani, ad altri. La situazione è quella che è. Ma voi siete più vicini al PDL, fatevi una ragione. Anche lei, secondo me, è più vicino al PDL. No, scusi, no, adesso non, no, guardi, questo proprio glielo dico di no e glielo dico da Pellegrino del Friuli Venezia Giulia. No, che lei si sente più vicina a Grillo che a Berlusconi. Mano. Lei si sente più vicina? No, francamente a questo Grillo assolutamente no. Mi sento vicina a quegli elettori che hanno dato il voto al Movimento 5 Stelle pensando che il Movimento 5 Stelle avrebbe cambiato le cose. Oggi devo constatare che di fronte alla possibilità di cambiare le cose si è deciso di lasciarle esattamente come sono e quindi di continuare a far governare o addirittura di far tentare di governare quelli che già c'erano e contro i quali da una vita si sono scagliati. Allora io mi chiedo, non tanto quello che pensa Grillo, che mi pare chiaro, però loro hanno sempre vuole detto buttare la stessa giù cosa. Punto e basta il palazzo. Ma l'hanno detto prima. Bene, ma anche quelli che abbiamo eletto lì, che evidentemente hanno una missione, non lo chiamerei neanche un mandato, che missione ma hanno? I cittadini, ma non lo so, bisogna spiegarlo a loro, perché se uno si fa votare democraticamente per entrare in un palazzo e anche per governare le cose e prendersi la responsabilità del governo. Ma come se sono? Un po' antidemocratici? Si dimostrano che no, cosa? Non è antidemocrazia, è diciamo così un'idea diversa della democrazia. Io penso che se entro in un palazzo e mi faccio eleggere democraticamente è perché penso di governarlo, cambiandolo. Se viceversa penso di poter stare sempre sull'Aventino a vedere gli altri quello che fanno e star lì a dare le lezioncine. Però beh, l'hanno sempre detto loro, che non si può nemmeno rimproverare, non si possono dare degli Grillo non è che è irresponsabile, l'ha sempre detto, noi vogliamo allora, distruggere i partiti, distruggere i partiti e prendere noi il governo. Non è che è una cosa. Però io sto facendo un'altra considerazione, almeno credo che sia un'altra considerazione. Un conto è Grillo e un conto sono anche le persone che probabilmente sono state elette in questo sistema e con questa logica. Dico però che tanti cittadini che hanno dato quel voto in nome del cambiamento, che l'hanno dato in nome della protesta, che l'hanno dato in nome del mandateli tutti a casa, in questo momento vorrebbero però probabilmente capire se quel cambiamento si riesce a fare davvero e non mi pare che in questo modo li stiamo convincendo. I grillini oggi dicono un'altra cosa, cioè se al posto di Bersani ci fosse un bubù del PD qualunque, un'altra persona, forse qualcosa cambierebbe, mi pare di aver allora, capito. Allora, la domanda è questa, non sarebbe meglio a questo punto, cioè anche se Crimi poi ha corretto la cosa, non sarebbe meglio spendere un altro nome per cercare, magari i grillini con un altro nome possono essere coinvolti o no? Allora, posso dire che secondo me in questo momento Bersani sta facendo quello che aveva detto dall'inizio, cioè sta tentando di coinvolgere il Movimento 5 Stelle, sarà il Movimento 5 Stelle a prendersi la responsabilità del no. E questa è l'operazione Bersani. Quello che farà il terzo nome, come è giusto che sia e come è istituzionalmente previsto, sarà, se lo ritiene, se ci sono le condizioni, il Presidente della Repubblica. Non ci sono più piacciono. Le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica e di religione per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nelle bolle blu, da quando sei andata via. Cantiamo insieme! Non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo cucurucucu. Il ritorni a fare questo, Battiato. Caro Battiato, ritorni a fare questo. Ma cosa fa l'assessore? L'assessore deve mettere le mani nella cacca, deve mettere le mani in cose fastidiose, le carte. Crocetta ci ha raccontato prima una cosa clamorosa, onorevole Serracchiani, che mandava ogni tanto a Ginevra, sto parlando di Zichichi in questo caso, un funzionario della regione Sicilia in trasferta, un capo di gabinetto. Andava con l'aereo, volava a spese nostre a Ginevra con una montagna di carte a far firmare i documenti a Zichichi. Ma lei si rende conto o no? No. Non cioè, è stata probabilmente una scelta oculata. Ma no, ma perché voglio dire, va bene l'immagine, tutto quello che vogliamo, però le persone hanno un loro ruolo adesso, voglio dire, cioè, Zichichi fa lo scienziato, non è che si può mettere a fare le scartoffie, le cose. Andiamo, dai. Sono d'accordo. Scusi un attimo, ma è stato sbagliato quell'espressione di Battiato? Anche lei si è sentita offesa, oppure in realtà c'è del vero quando si riferisce a donne portate in Parlamento, per esempio, da Berlusconi? Ma guardi, più che altro penso che ogni volta che si va all'estero e si denigra così il paese, comunque non è una grande soluzione. Comunque non è una grande soluzione. Vabbè. Dopodiché, sulle parole, c'è del vero? C'è del vero in quello che ha detto? Ma insomma, francamente io penso che se invece di dire certe cose facessimo ognuno il nostro dovere, compreso quello di far l'assessore, probabilmente faremmo tutti meglio. Scusi un attimo, a proposito di Berlusconi, lo sa che uno schema possibile è questo? Cioè che domani esce dall'aula, domani, cioè quando sarà, no, domani, sì. Uscirà dall'aula il PDL o la Lega, quello che è, e dunque sì. Con autonomisti, cioè si riesce ad arrivare a 158, 160, eccetera. Ma è possibile una cosa di questo tipo? Oppure non avreste, cioè, le... uso un'espressione molto cruda, non sarebbe un governo nelle mani di Berlusconi? No, ho l'impressione che comunque Berlusconi non arrivi a pensare questo, nel senso che ho l'impressione che in bisogna cambio dare qualcosa in cambio. Qualcosa, no? Certo, se questa certo. È la presidenza della Repubblica, direi proprio no, no, no. Presidenza della Repubblica è, ma magari c'è qualche altra cosa, cioè voglio dire, Berlusconi vuole qualcosa per uscire dall'aula e magari far nascere il governo Bersani, allora è meglio fare un accordo direttamente, facciamo un... no? O no? Ma allora, io penso che, insomma, ribadisco quello che ho detto anche poco fa, PDL. No a PDL e PD in questo modo, cioè sulla base di una trattativa che ha ad oggetto soltanto poltrone e che serve semplicemente a dare un ruolo a chi, dal mio punto di vista, e rispetto assolutamente il voto dei tanti italiani che, ahimè, l'hanno votato, non credo che in questo momento sia quello che deve avere effettivamente un ruolo. Perché, ahimè? Beh, ma perché speravo lo votassero di meno. Ah, vabbè, in questo senso, cioè, non è che è indegno votare Berlusconi. Beh, ovviamente se lo chiede a me, le dico che è una cosa che non mi passa nell'anticamera del cervello, e quindi un pochino mi sento anche, diciamo così, in condizione di dirle che proprio non mi va giù. Però, no, d'accordo, però... Dire, non posso non tener conto che viene votato democraticamente e democraticamente eletto. Questo succede cioè, da vent'anni. Non è che sono dei coglioni gli elettori di Berlusconi. No, mi interrogo evidentemente su quello che io non riesco a spiegare agli elettori di Berlusconi se continuano a votarlo. Perché sono un po' ignoranti, secondo lei? No, più che altro probabilmente sono io che non riesco a farmi capire. Okay. Il problema non è degli elettori, il problema è di chi non si fa spiegare e quindi farsi votare, credo. No? Scusi un attimo, ma lei la voterebbe l'arresto di Berlusconi se mai dovesse arrivare al Parlamento europeo? Lei non c'entra. Se fosse in Italia, eccetera, l'arresto di Berlusconi lo voterebbe? Ma io ho sempre detto che rispetto molto il lavoro della magistratura, se mi arrivano le carte e da queste carte si viene fatta la richiesta di un arresto, questo. Così come se mi capitasse al Parlamento europeo, lo voterei evidentemente. Lo voterebbe. Ah. Ovviamente l'ineligibilità è un giudizio, significa semplicemente prendere atto che c'è una richiesta della magistratura che evidentemente accertamenti li deve aver fatti e che si prende la responsabilità di un processo. Certo, non compete a me il processo. No, certo, per cui se fosse per lei eliminerebbe anche l'immunità da questo punto di vista, il passaggio parlamentare, cioè se il deputato deve essere o no? Sì, no, io francamente direi che ci vuole una capacità di essere immuni nel svolgimento del proprio mandato e solo ed esclusivamente per le cose che attengono al proprio mandato. Ecco, tutto il resto onestamente credo che se ne possa fare a meno. Senta. Dopodiché possiamo discutere anche di quanto è largo il margine del mandato, perché se guardo anche ad altri paesi europei hanno evidentemente un modo diverso di... Senta, le chiedo una cosa, ma l'ineleggibilità, per esempio, qualcuno pone il problema, anche i 5 Stelle, anche il capogruppo al Senato Zanda ha detto che secondo lui Berlusconi è ineleggibile, c'è una controversia che dura ormai da 20 anni. È ineleggibile secondo lei, cioè per la legge famosa sulle concessioni televisive, eccetera, eccetera? Ma guardi, diciamo che se veramente volevamo farlo ineleggibile, quando avevamo avuto l'occasione avremmo potuto fare la legge sul conflitto di interessi, tanto per dirla diciamo fino in fondo. Dopodiché prendo atto che non l'abbiamo fatta allora, che magari la stiamo ancora pagando. Adesso se c'è la la possibilità di dire che una persona non è eleggibile, non è eleggibile, ma non lo è neanche la Serracchiani se avesse una qualunque causa di incompatibilità. Cioè, io non ho capito, secondo lei è ineleggibile Berlusconi o no, secondo quella legge là? Che per c'è una legge, guardi, io non sta a me, ripeto, fare giudizio e interpretare norme, no? Allora, se c'è una norma che dice che è ineleggibile, si applichi la norma. Il problema è che noi troppo spesso non applichiamo le norme pure quando ci sono. Dopodiché, da un punto di vista puramente politico, le dico che veramente sono stanca, perché quando avevamo l'occasione di farlo non l'abbiamo fatto e credo che adesso la storia ci stia facendo pagare il conto, anche perché adesso e solo adesso Bersani parla con grande ritardo, per lui ovviamente, del conflitto di interessi, la legge sull'anticorruzione, quello lo diceva pure in campagna elettorale, insomma è rispuntato fuori la questione di Berlusconi, dell'ineleggibilità e del conflitto di interessi semplicemente perché lo chiede anche il 5 Stelle. Vabbè, comunque. Senta, ma lei stringerebbe la mano a Berlusconi? Ma sa che non ho mai avuto l'occasione di vederlo, neanche da vicino. No, mai? Cioè, o meglio, l'ho visto da lontano. Meglio così, dice lei. Ma diciamo che sopravvivo alla grande. Ma la mano gliela stringerebbe o le farebbe un po' impressione? No, ma per carità, ma perché, cioè, il problema... No, è una domanda, così sa che è successo, che i grillini non volevano stringere la mano alla Bindi, no? Senta, ecco, quella mi sembra una sciocchezza, fuori luogo e anche una maleducazione. Per cui lei stringerebbe la mano a Berlusconi? Ma se ho l'occasione gliela stringo, il punto è che non ci faccio affari con Berlusconi. Affari di che tipo, scusi? Beh, affari. Di qualunque tipo, guardi, anche di natura politica, non si preoccupi. No, politica, non sto pensando solo quello. A nulla di, no, di peggio. Solo quello, io dicevo, solo politica. No, no, per carità, poi lei ormai... No, conoscendola avevo il dubbio che lei... No, ma no, io quando voglio fare una domanda maliziosa la faccio direttamente, a lei qualche volta gliel'ho fatta direttamente. A proposito, ma si è sposata lei o no alla fine? Mi sono sposata il 22 dicembre. Bene, bene. Siamo in attesa? Siamo in dolce attesa? No. No, vabbè, adesso non esageri. E che ne so? Calma, ci ho messo 20 anni per sposarmi, me la prendo un po' comoda, insomma, ancora posso. Grazie, a presto. Brava. Grazie, brava. Grazie, arrivederci. Viva il Friuli in tutti i sensi. Grazie. Viva il Friuli. Viva Venezia Friuli. Giulia, grazie. Stasera voglio cantare. Arriva, arriva, arriva, arriva. Nicola da Bari. Nicola da Bari. Sì, bisogna mettere le parole però, non la musica. Nicola, dica. Salve, buonasera signor Cruciale, complimenti per la trasmissione. Allora? Allora io ti volevo dire, siccome che faccio l'autista e faccio sempre l'acqua forbici, no? Sì. Allora eccolo qua. Sta al parcheggio là dove avete detto, come si chiama? Quelli sta dopo la salita di Vasto Nord. Sì, la signora Susi, la trans, sì. Allora... quelle San Lorenzo. Quelli mo è 40 anni che faccio l'autista, no? Sì. Quelli sta sempre fermo là e non è vero come ha detto quell'altro collega che dice rovina la categoria, non è vero, perché quella sta ferma là e non si avvicina a nessuno. Quella sta là per fare, io la vedo tutte le settimane che passo, non dà fastidio a nessuno, non è vero come avete detto voi ieri, se quella sta là, perché quella è andata a dire rovina la bambina, le cose, non è vero, quella è una brava persona. Bene, bene Nicola, sono d'accordo con lei, ma lei ci va ogni tanto a fare lei ci va ogni tanto a fare un passaggio dalla signora Susi? Parliamo, mi conosce bene, capito? Cioè non ho capito, scusi Nicola, lei ci va ogni tanto dalla signora Susi Trans per qualche servizietto, sì o no? Ogni tanto, vabbè. Ogni tanto. ogni tanto Nicola. Ti posso dire che bella, bionda, due tettone, tena un fisico che non te ne dico, io la saluto, che non ti so il numero, io ieri stavo... Ma questo è un maiale. Colleghi, no? Ma perché un maiale, che vuol dire? Ma dai, ma che deve parlare delle sue... A ridere, è una brava persona. basta il numero, come si deve fare? Adesso non è che gli posso, non è che le posso dare sporconerie, parla al telefono. Scusi, Nicola, adesso abbia pazienza. Lei mi chiama e vorrebbe in diretta il numero di un transessuale sull'autostrada A14. Scusi, ma non è che facciamo qui, veramente ci carcerano prima o poi, E mica comunque è una brava, non è vero quel cane detti con lei, quello sta là, se non ci vai vicino non ti avvicina, e poi c'ha un giro di donne che non te ne dico. In che senso, scusi, un giro di donne? Ti fa, come mi ha spiegato poi qualche collega a casa, ti fa incontrare le coppie, capite? Le coppie, belle donne, proprio femme, Nicola, tutto fatto. Ma questo è un... Ma che cosa sei diventato? All'improvviso sei diventato e sei diventato tutto politicamente corretto, tutto. Ma no, ma che corretto? Mi dispiace pudico. Per lui che mette la sua sessualità in piazza così al telefono. Vada a farsi curare, faccia quel che vuole. Ma che curare? Scusi, Nicola, dica qualcosa a Parenzo. Ma si faccia curare. Io ti ho detto solo la storia, che non è vero quello che hanno detto, che si avvicina, dà fastidio. Non è vero questo, solo questo volevo. Okay, ma quante volte ci va dalla signora Susi lei? Ma vabbè, quando passo mi fermo, due chiacchiere, due cose. Due cose che? Due chiacchiere, due cose. Ma quanta è la tariffa normale? Ma io non lo so, no, ti ho chiesto, quanti prendo? 20 euro, che ne so. No, che ti devo dire, io non è 20 che euro, si, si possono... è che sto sempre là, però già che non gli dice niente nessuno, che anni che fa, l'anni che sta là. Vabbè, 20 euro poi si possono spendere ogni tanto 20 euro, no? Per la crisi che c'è 20 euro di più no, ma la ventina si può fare, ecco. Una ventina si può fare, ma come... è un amico tuo che se non ci riesce più, quindi... Ma com'è? Ma non ho capito, scusi Nicola, ma com'è, brava? No, una persona correttissima. No, ma al di là di questo, ma cosa vuol dire corretta? Beh, brava o no? È brava o no? Ah, fare quelle cose spettacolari, è maestra. I desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena. Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Ma lascia cantare me, che tu, per carità. Bellissimo perdersi in questo incantesimo. Gennaro da Caserta. Gennaro, bonsoir. Buonasera Giuseppe, buonasera. Lei è... Cioè, mi sente? Sì. Giuseppe, lei è pure David. Sì, ma no, io volevo dire una cosa, no. Io non è che sono indignato per il fatto, oppure potrei essere definito un po' omofobico, no, per carità, sono democratico su certi aspetti, per come uno vuole gestirsi la propria sessualità, no? Però perché fare usare un network della Confindustria per un quarto d'ora, 20 minuti, io sono un camionista a prescindere, no? Sì. Dare spazio a una trans, Susi, bocca calda, culo freddo, insomma, non ho capito tanto bene sta cosa. Poi c'è un pallino che mi gira nella testa, no? Da un po' di. Sì. Visto e considerato, lei Cruciani si attacca tanto a queste cose, ma ogni tanto lo fa pure lei il giretto, dica la verità, dica. Il giretto gli piace rifarselo pure lei. Ma dove? Come? Vabbè, il giretto, sa, mi capisce, davanti indietro, con qualche amichetto sull'autostrada, i viali, come l'altro conduttore che frequentava quei viali, dica. Ma veramente, per curiosità, ogni tanto se lo fa pure lei il giretto. Ma lei è un povero cretino, Gennaro. Lei è un povero cretino. Scusa, perché... Lei ha detto non ci sarebbe niente di male, non ci sarebbe niente di male, ma non... scusi, perché si sta incazzando? Perché mi sta offendendo? Lei è un maleducato, perché mi offende? Scusi. Ma che offesa? Lei ieri ha detto così, che i camionisti vanno a farsi giri attraverso la trans. Ma io non ho detto questo. Un attimo solo, un attimo. Cos'è questo? Quello che sai. Lavanda, buonasera. Buonasera, qui la segreteria di Beppe Grillo, volevo il maestro. La segreteria di Beppe Grillo? Sì. Sì, ma il maestro no, in questo momento non può rispondere al telefono. Ah, non può rispondere? Scusi, no, è una telefonata domani urgente. Domani mattina. No, una telefonata urgente, mi aveva detto se poteva passarglielo un attimo. Una telefonata urgente, ma non... Non può parlare? No, assolutamente. assolutamente no. Domani mattina, per favore. Cosa devo riferire allora? Che domani mattina potete chiamare. Verso che ora? Ma dopo le 9. Dopo le 9. Ma è sicura che è impegnato in questo momento? Sì, perché... No, ma non può rispondere perché non sta bene. Ah, mi scusi. Dopo le 9 allora. Allora chiama lei domani? Sì, chiamo io domani. Va bene, dopo grazie. Grazie, prego. Fare quelle cose spettacolari, è maestra. Gennaro, che vuole allora, dai. Gennaro, non c'è più. Nicola dalla provincia di Chieti. Chissà dove è andato, guarda. Niente, si può parlare anche di altro o dobbiamo rimanere sulle statali e sulle autostrade? Ma lei può fare quello che vuole, Nicola. Ah, perfetto, non abbiamo problemi. Niente, noi. Ma senta, io volevo un attimino tornare sulla politica e sulla cosa che sta succedendo in generale per quanto riguarda la composizione del governo. Premetto che vengo da destra e in questi giorni mi sta addirittura rimanendo simpatico Bersani per il comportamento che ha Grillo, i suoi grillini, i suoi grilletti che si trova praticamente, soprattutto anche quelli che l'hanno votato. Ma lo sai che io non ho capito nulla di quello che lei sta dicendo? Neanche lui. Parenzo penso che abbia capito. No, neanche lei ha capito quello che sta dicendo, ma comunque non ho capito. Lei le sta simpatico Bersani per quale motivo? Ecco, questo voglio afferrare. Per il comportamento che praticamente sta prendendo Grillo. Che finché fa, cioè, lo sbeffeggiamento di Grillo le rende simpatico Bersani. Esattamente, ma ecco, no, come Bersani come politico, cercando di tradurre in italiano. In generale, e sarebbe il caso a questo punto di creare quel famoso governo, se ci riescono, di persone serie che va da che tutto praticamente raggruppa tutto e far fuori il partito di Grillo e mandarli tutti a casa, perché questi possono tornare a casa perché non hanno nulla da proporre. Sai che non ho capito, non nemmeno io. Vabbè, il governo delle persone serie per far fuori Grillo. Grillo sì. Vabbè. Per far fuori Grillo. Vabbè, d'accordo, arrivederci. Max da Roma, buonasera. Buonasera. Vada. Io, come va Cruciani, tutto a posto? Beh, più o meno sì, tutto regolare, sì. Allora, io ho la soluzione proprio per l'Italia. Ah, ecco, bene, aspettavamo solo questo. Sì, alle 20.53, esatto, sentiamo la cazzata delle 20.53, su dai. Esatto. Max, allora, dai. Hanno preso il 33, il 33, il 33 all'incirca. Bene, un po' meno, comunque, sì. Vabbè, insomma, quello che hanno preso. Allora, diamogli l'opportunità a tutti di dimostrare, no? Facciamo il time sharing, sì, come si fa nelle multiproprietà, no? Facciamo prima un periodo, facciamo fare a Berlusconi, sì, che ci ridà l'IMU, sì, poi facciamo fare un periodo a Bersani, sì, che ci ritutela i lavoratori, e poi facciamo fare un periodo a Grillo che li caccia tutti. Non è male. Genialata. Il governo dell'Italia come car sharing. Stupendo Max. Esatto. Enrico da Monza, buonasera, che non è la monaca, ma bensì Enrico. Buonasera. Dunque, mi viene in mente un periodo storico italiano, se vi ricordate, nel 1987, chi è salita in... Cicciolina, vi ricordate Cicciolina che andò in Parlamento? E che no? C'entra Cicciolina, scusa? Per dirle... Che una volta, quando c'era Andreotti che fu ospite in una TV tedesca, che erano altri parlamentari, quando i tedeschi gli fecero una famosa domanda, ma voi mandate una prostituta in Parlamento? Scandalizzati erano. Sì. Sai cosa gli ha risposto? Noi siamo talmente democratici che facciamo anche questo. Vedete che differenza di personaggi ci sono oggi confronto a ieri. E poi un'altra cosa, sai che in Germania sta venendo un partito di grillini con lo stesso statuto? Questo non lo sapete? La diffusione dei 5 Stelle in Europa, se ne era parlato, sì, non lo so. No, per adesso preoccupiamoci dei grillini di casa nostra. E anche in Inghilterra sta sorgendo un altro del genere. Sì. Ciò vuol dire che questo sta prendendo un po' tutti. E poi ora di finirla di dire che Grillo, sembra quasi che sia proprietà della sinistra il grillismo. Ma scusate, ma sono andati a sentire quello che ha detto il signor Grillo? Io non ho mai votato in vita mia, però voglio dire, ma quella gente lì è andata in piazza a sentire cosa ha detto Grillo? sembra quasi che è proprietà della sinistra. Beh, molte cose, non ha capito lui. Però molte cose sono vicine a posizioni che in teoria, che in teoria loro non c'è più quell'ideologia di dire questo è di sinistra. È vero, è vero, è vero. Perché se no io ci sono alcune cose che mi va bene da sinistra, quindi è ora di finirla di ragionare come se fosse il cervello una roba stagna, come il Titanic. Il Titanic, quando è saltato due stagnazioni, è saltato tutto. Quindi siamo a quel livello lì. Quindi pensiamo lì di guardare la politica di 30 anni fa, perché sennò quando ci fu Cicciolina non mi pare che ci fu un grande scandalo in Parlamento. Anzi, quando entrava là tutti i membri si alzavano, mi pare, no? Grazie. Cerco un centro di gravità permanente. È quello che sta cercando Bersani, eh? Pare con l'uscita, l'ultima cosa è i numeri al Senato con l'uscita di Berlusconi. Ma ragazzi, su, dai, è una roba penosa. Quello pur che, di arrivare al risultato, vedi, sì, pur di arrivare a entrare a Palazzo Chigi, perché altrimenti il partito chissà che fine fa. Dai, non importa di che colore è il gatto, importante che prenda il topo. Ma quanto dura una roba del genere? Quanto dura? Poi io vorrei capire una cosa. Ma che diavolo significa? Tu hai capito il significato del governo del cambiamento? Ma che diavolo vuol dire il governo del cambiamento? Così. Ma non vuol dire nulla, nulla, diciamo. nulla. Guardi, a lei non lo conosco, però sembra abbastanza intrigante per interessarmi, almeno mentalmente. Le strade di Pechino. Più stronzi sono, più piacciono. Capito Crocetta? Però abbiamo scoperto un nuovo assessore, abbiamo scoperto stasera, perché ci ha rivelato che quale sarà il nuovo assessore in Sicilia. Poi detto tra noi, ma chi se ne frega, eh? Beh, non penso che appunto anche in quell'autostrada dove esatto, non penso che nella A14 dove staziona Susi starà, parlano in questo momento del nuovo assessore al posto di Battiato, ecco, no? Mi sento di escluderlo. Fanno, diciamo, altre cose, fanno altre cose. Mi sento di escluderlo. A domani 18:30, addio. Salute. Radio 24. La passione si sente. Ah, fare quelle cose è spettacolare, è maestra.